Ahia. Ancora gli danno modo di farlo parlare. Se fosse stato un po' veloce avrebbe già arrestato. Maledetto è tutto, ma ci devo fare una ricerca, riprendilo, se ci siete al limite ci sentiamo dopo, era giusto per salutare, che ho sentito Gianni che chiamava e mi sembrava maleducazione non rispondere. Grazie Fabri, ti ringrazio, dai. Buona serata se non stai con lui, e buona attività. Se guardo due cose, io però un po' mi vesto, devo andare a lavorare stanotte, passo un attimo a Porto Torre da fare il pieno e poi vado a lavorare. Dove vai? Alla Cona? Mi viene bene passare lì, sai che io viaggio lì e faccio almeno tre pieni a settimana, al mese più o meno. Che ha necessità, infatti mi sta quello che sto parlando mia moglie, stavo guardando, oggi sono andato a vedere, mi devo chiamare per provarla, questa è macchina completamente elettrica, volevo vederla un attimino, cioè vederla una macchina normale, infatti mi ha incuriosito perché sono andato a leggere nelle fiancate, diceva emissioni zero, fate che motore c'ha, vado a guardare ieri, c'è il tubo di scappamento, io non inquino, non ce n'era, completamente elettrica al 100%, elettrica, era anche abbastanza grossa, e okay, allora sono andato a vederla, infatti voglio andare a curiosare, ma prendo per provarla. Non so Fabio, ma queste macchine elettriche con l'umidità quando piove e coso, basta un po' di umidità li faccio filmare. Ah vai cavolo, sì, ma stai scherzando. Comunque, adesso la città lo vogliamo andare a vedere, poi vediamo. Ma buona, infatti adesso sono un attimo e guardo due cose su questa storia di telegiornale, 10 minuti, e 10 minuti mi do un'occhiata su internet a vedere cosa c'è sul mercato. Riprendi Gianni e fai girare, dai, magari se ci siete prendo dopo. Allora, ciao Fabi, ci sentiamo dopo allora. Avanti Luca. Sì, mi sono rimasto una base che la devo cantare, aspetta. Ma c'è una cazzo. Mi stanno saltando in aria. Tu mi devo mettere la mano, un cazzo. Mi ammazzo, ti vado a mettere, ma almeno tutti i cudini mi vado a mettere. Buonasera, prego per un'informazione. Allora, ma normale è che faccia tutti questi aggiornamenti il computer, io che se l'ho acceso, ha fatto prima un aggiornamento, uno di 81, sono stato un bel po' aspettare, allora mi sono acceso il cellulare, sono stato con il cellulare, poi si è spento da solo, io l'ho riacceso, e ha fatto un altro aggiornamento, quello già era veloce, era la verità, quello lì ha fatto di fretta, ma tutti questi aggiornamenti è giusto che li faccio. Una parte non li ha fatti, ma si è fatto uno di 81, poi se ne ha fatto un altro, per tranquillo, che ogni tanto qualcuno ti capita. Per esempio io ne ho occupata, mi sono bloccati però, non sono obbligato a farli, poi se porto un automatico è normale, io ne ho 33, ma sono bloccati. E sono tutti, c'è delle lingue, lingua araba, lingua bulgara, ceco, cinese, eccetera, eccetera, quelle non le faccio, cioè le ho fatte, perché mi sono dimenticato di aver appunto e voglio la trucca e se le ha fatte. Comunque se le ha fatto quelle, stai tranquillo che non succede niente. No, italiana era l'unica, tutto italiano in questa qua era. Attendere, eccetera, eccetera, poi non spegnere il computer, c'era scritto che sta facendo un aggiornamento di Windows. Ecco. Sì, registrato, sì, è un po' tranquillo, già, cosa di problema? Sono furti, ma non ci sono problemi, perché l'ho provato, e ho detto che ho chiuso alle 3:30 di notte. Giusto per andare l'indomani, se no ho travagliato dopo due giorni. Ma ho fregato perché ho formattato presso il driver della wireless. Tranquillo, se ho problemi non ho punto, ma non penso che ce ne siano. Se no ti scarichi un programma, non ci bisogna manco che vieni qua, ti entro a casa col team viewer foto, ti scarichi da internet, entro da Catania e te lo controllo io se hai problemi. Avanti Zecchio. Ciao Lu, Gianni, buonasera. Barracuda, ascolta, voglio chiedere un'informazione a te Lu. C'è un amico che ha un computer che è uscito un po' di fumo da un portatile e non accende più. Sei vuoi che te lo porto e vedi un po' se si può riparare. Aspetta, un po' di fumo come? Non lo so. Le hanno una sigaretta. Ah no, in poche parole, lui l'ha lasciato acceso per un po' di tempo il computer e l'ha fatto scaricare la batteria. L'ha riutilizzato dopo 3 mesi e non accendeva. Convinto che era il trasformatore, è andato dai cinesi, l'ha comprato lì, ma non cambiava niente, non accende. Ha riprovato un altro trasformatore dai cinesi, credendo che il trasformatore era rotto con la pipila del computer. Come gli ha attaccato il trasformatore, ha iniziato a uscire fumo, diciamo, cioè la colonnina, no, il buchino, la colonnina, proprio dove c'era l'attacco dello spinotto. Che avrà messo voi in ho guardato prima di acquistare il trasformatore, aveva tutte le caratteristiche di quello originale, no? Il voltaggio, compagnia bella, e gli ha fatto quel difetto lì, già non accendeva, in più poi è iniziato a uscire un po' di fumo, poi quando è appena uscito l'ha preso attaccato e ha mollato. Se vuoi apportarlo me lo dici quando, così vedi un po' se lo controlli, si può riparare oppure no, poi ti do il suo numero di telefono e ti arrangi tu con lui. Io non è che ci posso fare più molto tempo, perché tempo perso, già che io ho preso un'ora per me è tanto, mi vuole per tante cose, cioè nel senso formatato e stagiali tra giornale per dire, no? E purtroppo resto mette tutti i programmi eccetera eccetera, parlo di formattazione, eppure non lo so, boh, al limite dove è questo tipo di satari? No, di Rossi, attaccato a casa. Non so, ma se è uscito un fumo, mi ha fatto danno un alimentatore e ha fottuto una scheda madre, sicuramente. Luca, ho controllato il computer, è preciso identico quello là, eh. Ah, salva. Aspetta, ma lo scritto con una scheda madre su internet, guarda, lui è fiammante, cioè è nuovo di pacca. Se io trovo la scheda madre anche a 100 euro, ma che? Già cambi il sito perché è nuovo, è nuovo, non c'è poco tempo. Non so, è un attimo che conosco, no? L'ha caduto a terra perché aveva problemi di salute, poi adesso è deceduta anche. Si è buttata nel vuoto l'anno scorso. Vabbè. E niente, non accende tutto, però mi fa passo a contatto, lo so, è risbie, come ti ho fatto vedere, accende, va, forse lo lascio, sparisce la schermata, è un peccato, va, già, addirittura già, la disk da 500 giga. Ma la scheda madre è buona quella tua, non è buona? La scheda madre mica è già, se quando è stata buona, mica l'ho data a te, però vorrei capire dove è il problema tuo. Non vuole capire cosa c'ha. È la scheda madre bruciata lo stesso, è entrata a corrente, ha bruciato tutto. Qualche falso contatto, qualche cosa del genere, ha fatto scaldare il computer più del dovuto, si è bruciato lo spinotto esterno e poi ha continuato il circuito. E quindi la scheda madre è partita, quindi non se ne può fare manco da 2-1. Comunque Lu, se vuoi dimmi tu, se lo porto, se lo fascescia, dimmi tu. Ma com'è? Io non ho nessun problema, lui l'ha portato qualche tecnico, sai qualcosa? A quanto so io no, ma io ho pensato a te, ho detto prova a chiedere a un amico, vedo un po' cosa mi dice, capito tutto lì? Se è una cosa che riesci a riparare, meglio che ripari tu che un tecnico, no? Alla fine ho pensato a te. Dimmi tu. Sì, no, allora, quello che voglio dire io è, se lui l'ha portato da un tecnico, il tecnico gli ha detto non si può fare niente, io non ti chiedo da me. Penso che un tecnico specializzato ne sa più di me. Ma comunque sia, si può dare sempre da un'occhiata. Però ripeto, se l'ha portato dal tecnico gli ha detto non si può fare, cosa devo andare a fare? se c'è la scheda bruciata, io ne ho due PC, uno del 17-11 con la scheda madre bruciata e uno con quello che mi sto tu, già, vabbè, sicuro che la scheda madre bruciata perché non fa quello che deve fare. Pronto, io ti lascio il numero, mi fai chiamare e poi vedo di parlare con lui. E facciamo così, oppure una parola dove gli dico, gli chiedo a vedere se l'ha portato da un tecnico, se lui non l'ha portato, lo dico a te e vedi un po', dai, d'accordo. Ti ringrazio, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao Antonio. Se vuoi trovarci il numero, non c'è problema, eh. E aspetta che prendo il telefono, così me lo segno. Ok, dai, io qui ci ne ho fatto tanti, cioè tanti, ne ho fatto un po', in realtà non ho avuto problemi. Diciamo che a qualcuno ho pulito la ferro perché si andava troppo. E quello è un casino. Quando c'è la ferro è interdatta. Se ti capita con il computer che hanno il tappo sotto, sei fortunato che il tappo sono 5-6 viti, non è cazzata a farlo, però non è cazzata. Poi se hai quel computer tipo il tuo, no? Ti devi prima sono la tastiera, le mani dai 5 viti che ha sotto la tastiera, ne c'è preso di sotto. È un casino, ragazzi, è un casino. Cioè, casino, si può fare lo stesso, però è più, diciamo, firma un po' di tempo, ecco. Più complication. Firma un po' di tempo, eh. A me è capitato lo stesso, aspetta, cos'era? Che ho poco pagato. Mi ha chiamato da poco, piangere, non c'aveva soldi per i figli, per la merenda. Ti ho detto, guarda, io campo da queste cose. Sai benissimo, non lavoro, perciò. E vabbè, la prossima volta non c'è problema. Oh, sparita, non voglio che tu non si vada più sentire. La prossima volta, se lei viene e vuole fare dei lavori, paga subito, ma ci paga quanto gli ho fatto io, poi gli ho fatto un prezzo da amico proprio, no? Paga il doppio. Se lo vuole fare bene, se lo porta dal tecnico. Dal tecnico si cura che lei deve dare subito un anticipo. Ah, io sono pronto. 347? Sì. 54 201. A posto, memorizzato. Io glielo do e poi appena lo becco, poi quando è il momento ti chiamerà. D'accordo, ci sentiamo dopo, vado a mangiare. Siamo qua, dai, non so se mi trattengo. Già, vabbè, se ho un problema, o fai quello che ti ho detto, scarichi quel programma, ma penso di no, perché va. L'ho fatto, diciamo, con impegno, non ho fatto così a tutto affarlo. Ci ha messo le cose giuste e va bene con il computer. Diciamo che purtroppo questi PC piccoli io non lo prenderei mai, manca regalo. Ma lo regalare con la mia amica, quella che è in Germania, non li voglio, che non si va nuda. Invece non è vero, ma per me va bene, è piccolo, non mi occupa spazio, ma me l'ha fatta solo ieri, mi giuro, gli altri giorni l'ho usato tranquillamente, non li ho fatti aggiornamenti, ieri, come l'ho acceso, subito aggiornamento, e ho aspettato, poi ho fatto il secondo aggiornamento, quando sono andato per usarlo da già scarico, siccome il scaricabatterie c'era un camaradamento nella stazione, però stava di sui barri a mia moglie, non l'ho manco preso, ho preso il telefonino e sono stato col telefonino. No, tranquillo, non ho niente di grave, poi c'è anche un problema. Allora, diciamo che quello di prima del sistema operativo era starter, è più leggero. Quello che ti ho messo io è un po' più pesantuccio, ma va, perché ne ho fatto altri, non siamo ancora inventati, ne ho fatto uno, aspetta, non ti dico balle. Gennaio, mi sa, gennaio o febbraio. Praticamente questo tipo, un amico suo, mi ha detto, cioè era un amico di questa mia amica, poi lui, la pensa con questo amico suo, stava trattando, non so con chi, si è incazzato, gli ha dato un pugno e praticamente ha rotto l'arbischi, no? Allora l'ho fatto, era uno io di questi arbischi. Uno dei miei arbischi, no? Però mi siamo messo fuori e mi dà tot. E ha fatto la stessa cosa, l'ho fatto a lui, l'ho fatto a te uguale. E sta sempre andando, ma l'ha detto. Dice, è sempre una bomba. Ed è uguale l'articolo al tuo, piccolino così, insomma, era un Asus, mi sa. No, certo che non fa lui, non hai capito forse. È che ha fatto degli aggiornamenti molto, un aggiornamento che era un bel lungo. E quindi c'è stato un bel po', minimo 25 minuti, 30 minuti, faccio sentito l'aggiornamento, se non di più. E poi il secondo era veloce, l'ha fatto in fretta, capisci? Solo che quando avevo finito gli aggiornamenti era già scaricata la batteria, non potevo più fare nulla. Ma scusa, sono un po' nervoso l'ultimo. Mi hanno rubato la giornata, cazzo. Come mai? Sì, ma non ci sono notti, ti spiego. Te lo dirò, non parlo con la macchina. Alla fine uno poi, uno è bravo, non è bravo, bravo, bravo, bravo, scoppia. Oggi si è scoppiato, è andata pure quella andata. Io sono scoppiato ieri al lavoro, sono scoppiato ieri perché mi hanno dato delle colpe che non avevo, e mi hanno tutti canti a bozzi, senza guardare se siamo clienti, se non siamo clienti, non me ne ha fatto tutto. Gianni, lo sai, mi conosci, penso che non sono un tipo che piace attaccarsi, io evito sempre, però sopporti lui, sopporti l'uomo e poi alla fine scoppi, cazzo. La gente mi parliamo di persona, poi sarai tu a valutare la cosa e dire se ho ragione o meno, ma sono sicuro, guarda, come te anche le palle io ho ragione. Va bene, non te la prendere più di tanto, tanto ti fa male l'osco, ma che basta. Conviene sorvolare e via, non pensarci. Se è successo, boh, basta, futti di. Già, però mi sono cioè, mi hanno detto cose che a me non appartengono, capito? Assolutamente, ma non mi tocca proprio minimamente. Perciò non. Come ce l'ha così? Poi. Se proprio andiamo a guardare come andare in fondo, non ho problemi io, non ti malissimo, non so fare neanche colpe, ma a me può essere cambiato, tu Gesù Cristo, no, mi interessa un cazzo, però paga, paga, la paga, proprio la paga, proprio poi subito la paga, faccio a me non mi dica, non ci scendi, tutti con la porta e faccio la mia, poi se lui mi vuole sentire mi trovo, non c'è problema, mi dice tu il tanto sbagliato, ecco che sono stato sbagliato. Perché poi non mi passano, non mi guardano le qua già. Infatti no, non è il caso. Ti ho capito, ti ha fatto incassare di brutto. Non so chi, però è così. Una bella fottendente. Cerca di svagarti qua, se tu sei tranquillo. Non hai guardato la mano oppure già, se proprio vuoi sapere. Cosa? Che hai guardato la mano anche. Da parte sua. Ma non ha fatto parte sua, non ce l'ha fatto. E vabbè, lo so, a volte per dire staffe, a volte, ma bisogna cercare di avere autocontrollo a volte, tante volte però si perde, perché quando, come è successo l'altro giorno, che mi hanno accusato di una cosa che non avevo fatto, mi hanno messo in mezzo, non entravo nulla, al lavoro questo qui, no? E c'era Gianni, questo e quell'altro, tanto c'ero io, ma io mi stavo caricando il furgone, non ero bisogno di caricare. Allora il magazzino si è andato mai fatti su, ma ti è arrivato questo qua del mulino bianco a scaricare. Ha chiesto a questa commessa e macellai di mandargli qualcuno per scaricare, loro ci hanno detto che lo stavano mandando sia uno dell'altro e non gli hanno mandato nessuno, questo si è incazzato siccome di Cagliari, ha pigliato, ha caricato il tutto e se n'è andato e ci ha lasciato senza merci. Mulino bianco. Allora già dico una cosa, insomma è caro, una vita va. Io ti posso scusando il tema, il culo. Però se mi vedi fare un culo a mano, basta, no, non ci vedo più, qua, ho sopportato. Adesso parlo seriamente, non sto parlando tanto per parlare. Sto parlando seriamente. Oh, basta, basta. Non se lo libero adesso, fa sempre la Guglioni. Adesso tu che sbaglia, la paga. Non fai un cazzo a me già. Era fatto a questo punto. Allora c'è sempre la da macchina, no? Basta, non so, veramente rotto i coglioni. Cosa è successo? Cosa è successo? Mi è arrivato l'avvocato Grobe. Cosa è successo, lui, che non ti ho sentito mai così? Cosa è successo? Ma nulla. Ma già, io non so. Guarda, io mi sono trattenuto. Come hai detto tu, bisogna avere pazienza. Mi sono trattenuto. Se no, non so cosa sarebbe successo, veramente. Becca, tu. No. Quando qua c'è troppo grave, secondo me, va bene sempre del culo. Quello te l'appoggio. Per la spinta. Cazzo, non mi interessa. Scusate, ma poi sono veramente nero. Perciò. io ho detto che a me, bella di a me, certe cose che a me non conosco, non come le devi dire, non mi tocca minimamente. Poi, poi sì, vuole, ci spostiamo, andiamo, anche a mano però, non mi uso armi, a mano, poi vediamo, senti che me la prendo, ma sarà molto difficile però, molto. Se continui dici tutto quanto, vabbè, non è il caso di cattarti così a futurdine. La gente a volte non collega la testa quando parla, ecco. Non so cosa sia successo, però l'ho fatto anche con me. Mi hanno accusato che ero lì, non ho scaricato sto qua, quando io stavo caricando il mio mezzo, e quello mi glielo ha anche chiesto, ma l'hanno vista, dice sì, è venuto il tuo collega, mi ha detto che il macellaio che chiama il responsabile, va bene. Io ho preso, sono partito col furgone, però non pensavo nulla, glielo ha anche chiesto, quello si è incazzato perché ha detto che ha detto al macellaio è anche una commessa. E quindi se ne è andato già stato senza mesi pure in obbia per tutta la settimana. E vabbè, comunque diciamo che nei posti di lavoro è così, bisogna dire a culo, no? Come si dice. Vabbè, comunque vabbè. Però oggi sono veramente. Io ormai in 3-8 anni oggi mi sono mai visto. Se c'è un altro e sbaglio, non me la fatto un cazzo, che mi rompe coglioni io. Fatto, già, non lo so cosa mi sta succedendo, non sono qui io, non lo so, veramente qua. Sono trovati i coglioni. Sono capace anche di fare altri momenti da perdere. Famiglia non ne ho, figli non ne ho, un cazzo, facciamo niente da perdere. Allora, non dobbiamo girare i coglioni. Io sto per i cattivi tranquilli e se non faccio le mani a nessuno, nulla, non dico niente a nessuno. E allora non fa questa cosa, lasciami i coglioni in pace, non chiedo altro, i coglioni in pace. E non voglio neanche che mi dicano cose che non mi toccano, perché non mi toccano minimamente. Io quello chiedevo, ma poi, se vuole arrivare, non vuole arrivare lui, non c'è problema, allora ti arrivo. Ha fatto una cantata lui che ti basta di più. Avanti, Grodino. Avanti, avanti, qua c'è da tornare indietro, c'è da tornare. Non so cosa sia successo, ma se è così, Luca, non l'ho mai sentito, mi dispiace. E l'avevano fatto incazzare tutto lì. L'avevano fatto incazzare. Poi mi hanno fatto incazzare a me l'altro giorno e non ho avuto autocontrollo, li ho presi a voci tutti quanti perché li ho sgamati dicendo cose che non erano vere. E mi ha dato fastidio perché io non ero presente, quindi... Logicamente mi sono girato malamente a voci e cose, però infatti proprio dalla commissione del giacca, se avete fatto di camera c'era tutta la gente guardando, e cosa ci posso fare? Io non ho avuto autocontrollo in quel momento, perché mi ha dato troppo fastidio. Sappa, vabbè, non ti ripeto, non ne vale la pena. Aspetta un attimino, che mi ho ricevuto un messaggio un attimo. Ah, quando te la vuoi correre la macchinetta? Che l'hai comprata? La gente quanto l'hai pagata? 25. No, adesso le stanno facendo anche a 19 per la seconda del modello, ma la gente da un bel zocca. Cazzo, ce l'ho qua. C'è una bomba, è piaciuta anche a mia moglie. Anche a mia moglie. Sembra uno spedio, sembra. Io ho messo la pennina, cazzo, una cosa vicinale. Posso mettere anche la scheda mia, tu. Io lo so, puoi mettere la micro sim, la scheda, cioè la scheda micro sim, come si dice, la pennina, e dopodiché lo puoi utilizzare anche come cassa anche dell'apparato. Attaccando quello spinotto si sente, però devi accenderla così. Allora, la metti sul line, di che colore te la sei presa, blu elettrica o nera? Nera, mi è piaciuta di più, nera opaca. L'ho presa anch'io così, non hai visto quanto una zocca, cioè micidiale. Sì, ce n'era una blu che era bellina, però non si adeguava per metterla dove dovevo metterla io. Era molto bella anche quella blu, la rossa un po' meno, ma la blu mi piaceva. Tu immaginati che la prima volta che l'ho sentita all'aperto, ma questa ce l'aveva, questa bengalese, cingalese anzi. E io non capivo da dove venisse la musica, a un certo punto mi giro, ho visto questa cosa, ho detto ma non verrà da lì, no. Micidiale. In quella lì me la metto in cameretta e mi ascolto 105 perché ha ascoltavo sempre con Luigi Vittore, no? Vittore, lui succedeva così, che quando per dire parlavate voi, per dire, sentivo sempre 105, poi come parlavate voi si bloccava 105 e ascoltava voi. Sì, quando finiva di parlare poi rientrava 105, così non sentivo il QRM, capito? E poi, non so, ho toccato qualche tasto, non sono più riuscito a metterlo. E allora me l'ascolto lì. Ciao Roger. Bellina, bellina. Sicuramente, come si dice, sono queste nuove tipologie di casse che si chiamano con i magneti al neodimio, nel senso che non hanno, come si dice, la resistenza, che c'è il carico resistivo, no? Quindi sono micidiali, toccano che è una bellezza. L'unica cosa, ricordati che parte sempre a manetta quando si scarica del tutto, non tiene la memoria, o meglio, tiene la memoria dei canali ma non quella del volume, non so se la tua sia così. Qua io gliel'ho portata indietro perché l'ho comprata, sono andata a farla vedere a Marcolino e stava suonando normalmente il suono nitido e cose, poi di colpo si spegne, non vado a riaccendere niente. Ah, gliel'ho riportata, abbiamo detto batteria, la batteria scarica. No, non è la batteria, perché stava di solito quando si sta scaricando la batteria si sente più male, tutto distorto e cose. Invece si sentiva bene di colpo, plac, finita la batteria. Hai visto che batteria c'ha? Quella del Nokia. No, ma fa così anche la mia, nel senso che si spegne di colpo, è perché c'è un assorbimento tale che poi non ce la fa a darti il segnale di scarica, si butta e basta. Secondo me l'unica cosa è lasciarla sempre con il caricabatterie, io non lo sto caricando col computer, perché se non devo accendere il computer cosa metto? Attaccare al computer. Ho preso il coso del telefonino, dell'S3, il caricabatterie, e ci attacco la presa USB del coso, della macchinetta lì, e la carica lo stesso. Sì, ma infatti è così che devi fare. È importante che non la crepi però la batteria, capito? Adesso non so se abbia un metro di ricarica, nel senso che è arrivato a un certo punto quando è carica si stacca da sola, però vabbè, quello che dura fa figura, dai. Rientrato sei Lucchi? Sempre roba di Sanciuncin. Ma è tutto Sanciuncin. E quindi... No, ce la siamo presa, è piaciuta molto anche al ragazzo di Manuela e a Lucia, quella che abita in fronte al casetto, che se l'ha comprata per la cameretta. Oggi mi sono completato la stazione, se la vedi è un bijou, la vuoi vedere te la spedisco su WhatsApp. Cos'è che ti sei preso? No, ho completato, ho finito la stazione, ho messo tutti gli apparati, tutto a posto. Ah, e mandamela con l'email, perché io WhatsApp non ce l'ho. MMS ne ricevi? Certamente io sì. Ho l'S3 e anche le antenne piazzate. Antonio, aspetta, sto scattando la foto. Fai gappa. Non ci sono lui se facendo con la macchina, ma non ti devo dire, sta facendo la foto alla sua stazione, me la sta spedendo. Ora chiama me, andiamo con questa stazione, va, che l'ha finita, capito? L'ha finita e adesso WhatsApp tu ce l'hai. Sono nervoso, come cazzo, a mille, mamma mia. Sei nervoso, ti senti tremare? Nervoso, mamma mia, mi è coperto un servizio, c'è una che stiamo scoppiando. Che tu non sei per sfogarti veramente, dovevi dare una sussa così ti passava giù. Ah, no, sono uno schiaffo. Io grazie a Dio sono al 100% con la forza, non al 70%, 100%. Però te la regalarne, guarda. Invece ti avete tutto dentro e adesso il nervoso non è sfogato. Ciao, ma sono uno schiaffo. A tutti con l'uomo. Io vabbè, l'ho ravvoltato, ho scattato un collega e gli ho fatto sì da 50 metri di distanza di scinte da Lucia Fragio con tutto lo sangue da naso. E è andata a dire l'ufficio che l'avevo preso a pugni. Perché metto figlio di bagassa, perché doveva preparare questo che era un macellaio, da preparare un pezzo di carne per un noto ristorante di Porto Torres, che prendeva la carne a pezzi grossi, poi la tagliavano loro. E così era, allora si usciva l'una meno un quarto, così era mezzogiorno e lui non l'aveva ancora preparata, guarda che devi preparare la carne, guarda che la carne mi ha portato a pranzo, mi ristorante, come va a portata di notte? Non c'ho tempo, non c'è tempo, poi hanno una mano 20, mi ha detto che la camera fa te, se tu fai e ti la vedi giù, perché io hanno una mano un quarto me ne devo andare, mi dà, vuoi se me ne sto andando. E ho detto, brutto video, e mi ha tirato un vaso, di quelli, sapete quei vasi di sottaciti, però che fanno per i bar, quelli grandi. Facciamo i miei rubini, ho fatto il tempo a brincare, faccio brincando, da cui sono andato, boh, non c'è tutto una cavata, si esce dalla sabbia. E è stato 3 ore sangulese, e dopo io me ne sono andato, sono stato in ufficio e ho detto io me ne sto andando, se poi volete sapere perché, chiedetelo, e gli ho detto il nome del mio collega. Hanno chiamato in ufficio e cose, e lui ha detto che io l'avevo preso a pugni, invece non è vero, gli ha dato solo uno schiaffo, e dice due sangue da nasa che ha giubilato di la mano mia, brutto. Alleluia, perché c'è la... Ma cosa ti provocano, sei tranquillo e sereno, ti provocano e fai danno. Sto dicendo, se sbaglia, ma te lo giuro, vedi un fulmine adesso, mi metto, la squadra si fosse mistica, ma calcio un picchio, ma calcio, ma con un dito non sapevo, ma calcio un picchio. Se puoi sorvolare lui a Fudendini, lascialo perdere il buco, oramai è andata e non ti vendicare, non essere vendicativo. Se dovessi dopo toccarti, allora sì, ma se no lascia perdere, perché se stai attaccati, ne vuoi. Tanto poi ripeto una cosa che non finisce più. A me mi hanno insegnato che le cose che puzzano più leggere più odore fanno. Senti quella cosa che ti ho mandato. Hai detto se ci sono problemi, ma non ti cambi, non ti capiscono, no. Come le c'è con le donne io. Perciò, come tu mi devi dire un cazzo, zero. Perché zero sto zero. Ma sei all'altezza di quelle cose. Ma proprio zero, no? Perché vuol dire, io non deve niente. Io mano di zero. Mano di zero. Già, guardati quella cosa. Adesso va. Cappa, lui secondo che mi vado a stare. Quindi proprio un iPhone, non sapevo se lì su YouTube e lo sono sistemato tramite YouTube. Vabbè, sistemato tutti, ho aperto, eh. Va bene, non sarà che come tu. Qui ci l'arrangia, c'è da l'arrangia lì, c'è da raccontarti, ma ci troviamo, già sono un caffè, ce l'acconto. Poi c'è tu la dimmi, lui è sbagliato, no? Ho ragione, ma sono sicuro che ho ragione, ma senza un mal di dubbio. Cavolo, cavolo. Sì, vabbè, fuggi di lì, non mi bisa. Ma te ne chiedo la centralina? Cosa? C'è la legge sulla centralina? Quanto hai visto? Mia ragazza. Ho detto che mi hanno la legge sulla centralina oggi. Quando mi vuoi più la centralina occupo un cazzo. Come centralina? Non è vedo già. Te la tomo, te la tomo. No, da cervello già. Ho capito, Giulia. Ma com'è di sì? Franco sì, Franco Franco. No, è che sto facendo due cose insieme. Stavo leggendo e ascoltando a te. Capito. Stavo leggendo qua su internet. Questa è proprio per gli aggiornamenti da fare. Questa è l'attimo, facciamo bene e non li fai. Se ti appare la, diciamo, l'icona dell'aggiornamento e te li blocco, non c'è bisogno tanto. Ah, perché fai le cose giuste, già, ti hanno compreso, no? Siamo qua, rischi di, purtroppo lì, ma anche su Facebook si prendono, i virus, non solo su, anche su internet, dove vai, sparita qualche programma, non mettere niente, nessun programma, già, ci rimette qualcosa tipo Van Basco, eh? Ma lo fai sapere, lo scarico io, metto la pennina, te lo metto io. E io? Come mi scarica non ne ho. Metro virus, 2, 10, 100, formato, e sono da tutti. Non ne ho problemi. E sono il problema da te, che se entra a te è un casino, ti devo formattare. Ah, ma non mi è perché non vado in siti strani, capito? No, no, già ne parliamo di persona, già, tranquillo. Adesso vedi, se mi chiamava al comune, metto la cucina da parte e faccio un bel corso. Per un po' andare più a fondo, ecco, sapere le cose bene. E poi vedo un po', vedo il valuto. Non mi apro provvisoriamente un garage. Come li faccio dentro questa garage? Ci fai una specie di laboratorio? Beh, è minimo. Mi voglio comprare anche. Sono andato a casa. E ancora sei all'inizio. Ancora bisogna masticarla. E diciamo che la parte riesco a farla, non mi sembra bene. Io un PC di un'altra volta, un pezzo e poi tutta la piazza. Il mio è grande. Se te lo faccio quello un pezzo. Ho un pezzo e un piatto. Lo so, ti arrangi anche troppo, ti arrangi anche troppo, non è questo di quello, è questione che se fai un corso parti dalle basi e poi vedi un po' tutto, capito? Un'infarinatura te la danno. Sì. Diciamo che non bene, no? Insomma, riesco un po', dai, non te il mio, se vedo un po'. Allora, una volta, faccio un esempio, no? Io non la vita, sono sincero, non riuscivo, non ho cavato piede. Ho chiamato Antonello, che lo conosci anche tu, mi è venuto sto a casa, ha messo il CD, dice lui non mi ha del CD. Mi è strano, non parte, non ci parlo poco tempo, questo PC non serve. Comunque, c'era ragione, perché un PC non si vive a nulla, ci poteva fare qualcosa, anzi, l'abbiamo messo a posto, comunque sia. Allora, dicevo il problema era che non è che non leggevo dentro le CD, è stato smontato questo computer, sicuramente dentro le CD non era inserito bene nei contatti dentro, è normale che non lo legge. Infatti chi l'ha fatto, non ti dico chi l'ha fatto, se ne è accorto, l'ha formata più tutto, però l'unico problema era sempre della wireless, questo è tecnico veramente, che sta in Sicilia, tramite questo programma che ti ho detto a te, il TeamViewer, è entrato dentro, ma ti siamo attuguri, perché mi sono connesso col cavo di rete. E faccio fai così. E questo qua purtroppo lo devo pagare, un'offerta, no? Quindi faccio un modo di carica, facciamo una ricarica. E adesso appena sento la, diciamo, non è mio, gli ho detto. Dopo questa cosa c'è un assurdo, lo stesso, un po' trovare anche lì io, no? Gli avevi spediti. E niente, ho fatto la mano questo qua. Era una piattata lì già. Praticamente era sulla tastiera ci dovevi lavorarci. Tipo adesso FN, F2 per esempio, no? Si è attivato il wireless, perché c'era il driver, ma non era disattivato. E quello che mi ha comandato, uno di qua, sono riuscito ad attivarlo. E mi è dato questo corso, questo è bravo, io te lo posso garantire perché è molto, molto, molto bravo. Lo fa di mestiere. Fa pagare. Vabbè. Guarda, senti questa frase bella, questa è dedicata a te. Quando una persona ti ferisce, non irritarti, ma pensa solo che dietro quel comportamento c'è un'incapacità dovuta alla presenza di una ferita, di una mancanza d'affetto, amore, per perdonerai, pregherai per quella persona senza portare rancore. Infatti, tante parole sono giuste, giustissime, no? Giuste, giustissime. Diciamo che l'80% di quello che tu hai detto adesso è giustissimo. Gara. Io per dire, conosco una persona che tratta male la gente e cosa, ma è solo perché è infelice, perché lui a me me l'ha detto. Insomma, è perché sono infelice, perché non trovo un'anima gemella che si innamori di me, eccetera, eccetera. Ho l'infelicità, non sono felice, non mi sento tranquillo con me stesso, me la prendo un po'. Vabbè, già. Allora, il problema è, se io altro non ti cerco, no? Faccio un esempio a te, perché mi devi cercare? Non lo spieghi, te ne approfitti perché uno è bravo, ricordate una cosa, che è bravo, è più cattivo del cattivo. No, si è detto che è l'occasione, prima che da noi si è preso più cavalli. Ma mi dai da parlarmi già, io sono io evito sempre. Io evito sempre, aspetta una persona adesso, aspetta. Ma no, fa un culo di tempo. Aspetta un attimo, no? Una persona che io sono sicuro che non ho mai fatto niente. Praticamente si tratta di una sua ex, che io purtroppo ha problemi, non lavora, lavora poco, prende pochi soldi, ha tre figli, è separata da lui, no? E fanno di risparmiare 5 euro. Senti, non posso tenere la bombola, ma 5 minuti di orologio. Ma l'avessi fatto? È andata la guerra. Strava, per fatto che lui non c'è più. E questo qua, non ti aspettano un momento opportuno, questo c'ha 51 anni. Non vado, ma sicuro che non vado uno schiaffo. Io ho sempre evitato, sto aspettando il giorno che ha un dito, mi tocca appena appena. Lo distruggo. Sono sicuro che lo distruggo. E glielo faccio, io non la faccio, quasi quando glielo faccio. Ma cos'è, geloso perché ho portato la bomba? Ma da lì la moglie me la sono scoppata, 5 minuti. E cosa ne arriva, si sono separati? A parte il fatto lo sono separati. E poi, già, quindi cosa vuol dire, guarda bene e poi, cosa ne è, niente. Sì, ma anche se fosse, con lui la storia è finita, non è che lui può incazzarsi per certe cose, cazzo, poi magari tu non vedi giù, sarei fatto solo per fare un piacere, manco pensando magari ci sta. Fammi risparmiare 5 euro dalla bombola, con 5 euro ci sono 2 litri di latte e un chilo di pane, ma per carità, se ciò non lo sta aspettando, il momento che mi trovano con i coglioni girati lo distruggo. Poi se non è la pazienza, ma li prendo, non è la paga, ma non è volato la paga. Sì, ma la volta agli altri questa cosa te l'ho detto. Si fa conto che ci sono gli amici, purtroppo gli amici mi vanno contro, ma io la fanno contro. Però, già, ma è putinuta. Fate voi i bagli di piatti. Quanto la vostra paga? Insomma, il tenero qua, il giorno che scappa. Ma lascia le bustine. A rubare se stesso. E a fare allora. Infatti io quando domani mattina a casa tua, vieni, mi facciamo 19 gradi, tu vieni, ti aspetto, vieni. Tu vieni, mi gusta perché a lui, non ho problemi, vieni però, non c'è mai venuto però. Non c'è mai sempre la quello che sta sopra di me. Poi ho avuto pure passare uno di 4 anni, eh? Se c'è uno schiaffo, ma guarda, è uno schiaffo. Forse mattina è mezzo schiaffo gli basta. Vabbè, no. Tante volte, cazzo, bisogna farsi da fare giù, quando uno c'ha un po' di cuore, pensa agli altri, ci perde sempre, lo vedi. Questo, vedetene una, con lui non c'è più da 3 anni, lì è stato un tipo più di un anno, adesso che papà ce l'abbia fatta con questo tipo, no? Non gli ha mai detto niente a questo tipo, mai, sa perché? Poi si è fidanzata di un altro mio amico, è durato poco, perché vabbè, cosa, vabbè, non faceva per lui. Lui pensava ad altro, no, a questa ragazza. Poi lei si è messa con un'altra ancora. Questo qua ha 30 anni. Lui se la faceva davanti a lui, questo ragazzo, si faceva le sue davanti a lui. Perché non gli ha mai detto niente? La sua volta l'ha fatto scappare? Niente, se gli dice qualcosa, mi dai, diciamo a me. Niente, io a te ti distruggo, fatti un po' di a bugia, tu. E poi andava a dire in giro che andava a picchiarlo in tante persone, che poi non era vero. Se tu vieni, sono da solo, vieni, dillo a me le cose. Invece di andare lì, vieni e dillo a me, ma sei mai avvicinato. Niente, io a te ti distruggo. Questo ho detto già con la mente, tu vittimo è fuori di gabbo, ci vedi, piccoletto, ma sì, due, ce l'ha da fare. Solo, ma chi è quella simpatia che ho conosciuto in quel bar quel giorno che si sono attaccati quei cagliaritani che stavano parlando di pesca? E poi si è avvicinata quella tipa, quel tuo amico è andata a prendere una cosa, non mi ricordo che cosa, e lei è rimasta sola con noi. Buffando già. Cagliaritani. Buffando. No, per. Allora, il bar che c'è in via Antonio Piga. Prima, dopo cosa, va, Cessari e dopo Tore, rimane. Quel bar che fa angolo là di fronte a Giulio, per intenderci. Ti ricordi quella volta ci ho preso, che mi hai invitato la birra, tu poi hai detto io che se mi levo un panino da Tore ci ho preso il panino. No, non è quella. Comunque per farvi capire lui non sono una persona. Cioè lui come sembra aspettato, cioè lui dice proprio è intenzionato, io lo evito sempre. Io parlo tranquillo, senza problemi. Facciamo una cosa che deve pagare. Lui ci fa forte, si è un fatto di merda, dietro un cellulare però. Cioè tu non devi tutti mi scrivo questi messaggi. Prima di persona, e vedo se sei coraggioso. Cioè non ti vedo meno di me. Vieni. Sì. No, non ti faccio arrestare a te, tu non mi puoi toccare qua e là, tu mi puoi offendere, gli ho detto. Allora, non mi offendere, gli ho detto, se vai a casa tua, a casa ti strangolo. Ma è sempre se ti sta più goddo, perciò non ti permette di più. Cosa ti può, guarda di sciacqua, però lo porti, e poi mi dici mi fai arrestare perché c'è problemi di salute. Se c'è problemi di salute, non lo porti, lo porti. Assolutamente. Ma se tu mi fai qualsiasi cosa. Se non vuoi sorprendere, guarda, ma pensate a me, i messaggi li ho cancellati. Se io non li ritrovo, se attaccaci in culo, attaccaci in culo ti apre, scemo di guerra. Ragazzi, non mi cazzo di gridare a sé, ha diritto. Ti permette di più, Ma non ho più visto in giro. Anzi, buio, ho visto una porta da poco, che io stavo andando al parco. Da solo, non è? Lui c'era il bambino, io da solo. Come va a picchiare con questo amico suo? Se la mia volta a me aveva fatto bene la ragazza, no? Questo tipo non ti può metterlo, solamente è già. Mi ci mette più bassetti, ma basso. Vabbè, stavo andando al parco, io l'ho visto da lontano a lui, stava sempre in questa macchina di amici. Quanti mi hanno visto, si è posato in macchina, un lampo. Un lampo. Ha fatto l'indiano. cosa io lo mando, vado a porta. Sì, vabbè, ma uno si deve dare una rassegnazione, no? Dopo che si molla con una persona, se ha avuto tante persone, poi deve essere proprio dietro, non è una fottiluda. Ma guarda, l'ho sopportato, ma veramente guarda, l'ho sopportato, tante, tante, anche da bambino piccolino, non me ne vergogno. Non so perché tirato indietro, sai com'è, no, accumuli, poi scoppi, poi diventi, quando non era bravo, perché Luca Giovanni Antonio, o Gianni, no, non era bravo, e pensa a fare che uno gira, e poi scoppia, fare, cosa non deve fare? Facciamo gli ultimi, perché anche suoi, si sta cercando, quella cosa gli va incontro, e poi ti prendi la responsabilità, ma siamo tutti così. Sto la passola della rupi guidoni oggi e te la sa perdere domani, poi accumula questa persona. E io non ci trovo proprio un giorno sbagliato, sono cazzi due. Una maniera o l'altra la fa pagare. La fa pagare. Posso ancora rassegnato. Vabbè, poi fanno scandali così nei bar e cose, ma se uno ti vede una cosa ti chiama, fateci lui, mi dà fastidio che tu vada a casa della mia ex moglie, perché, e tu risponderai, capito, come a me uno mi ha detto che gli dava fastidio che io andavo, e allora io, praticamente questa ragazza era molto amica mia, e mi dimostrava molto affetto, però io non ci avevo mai pensato che lei fosse che fosse innamorata di me, capito? Quindi andavo praticamente a trovare la ricreazione, avevo molti amici, quando mi vedeva si faceva rosa rosa, mi abbracciava tutto, però io pensavo che fosse solo affettuosa, capito? E poi un giorno mi ha fermato un ragazzo a me, mi ha detto che gli dava fastidio, che mi chiedeva la cortesia, il piacere, perché era molto geloso lui, se potevo evitare di andare a trovarlo. E io ne ho parlato con lei e lei mi ha detto che non era lui che doveva darle certe restrizioni, perché lei faceva ciò che le piaceva, e ha detto vabbè, ma a me mi dà fastidio che voi bisticciate per colpa mia, capito? E lei mi ha detto, perché non hai capito il perché le dice così? Perché tu a me mi piaci. Ma io non ho fatto un clima, ma l'ho sempre rispettata, sempre. Devo rispettare, io rispetto, ho sempre avuto rispetto delle persone, sempre. Ma ti parlo anche di Marco Fici, aveva pensato di 12 anni fa, 12-13 anni fa. Lui era geloso, non voleva che la moglie parlasse con Gianni, per dire, no? O parlare con me. Cioè, sono modi e modi. Mica che facciamo una corte, ma assolutamente. Ti decido di capo. No, ma non mi decido di capo. Io a te, ma dai a io a te, tu mi ti vuoi fare un culo a me, cosa io a te, cosa la fai? Non vuoi partire, ma vieni, vieni, da solo vieni per darmi, io vado a male, vado a male, poi vediamo cosa esce, vieni, non ti aspetto. Ma non sei venuto? Da dove mi dia? Ma devo guardare un cazzo. C'è una cosa, la volta è buona, ma sono i capi di tempo, no? Ci vengo, vengo, tu lì che vengo, boh, me lo dico io, te lo dico, vengo, è la tua, e vengo. Ma non utilizziamo un altro linguaggio, fate da bravi. Io non ti faccio il voodoo. Lascialo sfogare, che qua non siamo, c'è libertà di parola, lo so che lì si conosce dei migliori, anche però, poveraccio, è incazzato nero, lascialo sfogare, almeno che mi passi un po' nervoso. Ma c'è il problema Gianni, il problema è questo, no? Quando si sta al computer, faccio un esempio, no? Si sta per avanzare il tempo, no? C'è d'accordo? Certo. Siamo in una chat, giusto, c'è d'accordo? Non ho capito. Guarda, siamo in una chat. E la ripete con una chat, un gioco, no? Giusto? Sì, sì. Ma l'ho avuto anche io la chat, dicevo stasera online. Insieme a Franca Trofa ci avevamo stasera online. Un'amica. C'era uno che siccome era geloso perché avevo molte amicizie donne, diceva a tutte le donne che io ero di quelli che si rimorchiava le ragazze, che ero maniaco. Vabbè, per farti capire, ma c'è gente fuori di campo, fuori di campo, cioè prenda la gente per la vita reale. Guarda, siamo una chat, tu te la prendi per questo, per quello, ma qua tu fai quello, tu fai quello. Se io faccio parte di un gruppo e la persona si comporta male, siamo dall'altro del tempo anche controllare e chiamare la persona, no? Cioè, che questo qua si mette per aprire il culo, gli ho detto, non fare casino, non mettere canzoni che non sono le donne, è un tipo di chat, perché dove ci sono tre tipi di chat. La G, ma la G non ti permette di parolacce, eh? Non puoi fare niente, questo è corretto. Poi ci sono R1R, lì ti può permettere di parolacce, però non puoi fare nudo, cioè puoi mettere foto nude, eccetera, eccetera. Poi parolacce sì, guardami fuori. E poi se lei era un adult e poi quando tu si stima di dare quei pugni a pisellino all'aria, poi fa quello che vuoi, ma sono le parti adatte, ecco, ma si sì, bisogna approfittare, no? Ma c'è i cartoni quante parolacce, ho riprovato più volte e si mette la cosa questa ragazza, ehi, ma tanto cosa va bene, tu sei più maleducato, mi dice la ghita, no? Scusa un attimino, tu ti metti sempre in mezzo, gli ho detto, fatti da fuori tu, perché tu sei moderatrice, no? Dalla stanza, fatti tu, ci sto pensando io a lui, e no, va bene, tu ti stai comportando male, lo puntini, cioè puntiato vuol dire, metti il divieto, no, può più scrivere, non puoi dire il microfono, no? Cioè che ho fatto, guarda, guarda, due palle, rapida da scopare una cosa, vai a cagare. E tu sei la prima lupo duca. Se non mi si con tutti, se tu cerca di dialogare di più e di mandarci quel paese un po' che per tutte le persone, di mandarne meno, ecco, e di avere più dialogo magari, il perché, il per come e cosa. Se tu alla prima ti mandi subito in oramma da tutti, è normale che poi bestisci. KK, quindi vabbè, comunque la chat al computer a volte si fraintendono un po' di cose, capito? Si fraintendono molto. No, ci sono. No, l'ho preso la, diciamo, il virtuale e il reale. Guarda che sono anche scannati, gente che è andata proprio sotto casa di queste persone a minacciarle, a fare. Soprattutto napoletani. Questo qua lo vuole fare, sì, ho fatto il problema, ci hanno detto, vieni, andiamo a fare la mia, vieni, se vuoi che vedi, tu vieni. Non è così, già, ti spiego il motivo, devo stare ragazza qua, da poco, un suo amico, no? Nella sua casa l'ho buttato fuori, senza aver fatto niente, no, era anche moderatore, lui era il padrone, e vabbè, niente, l'ha messo nel, diciamo, nel banno. E poi sono andato in un'altra stanza, no? A fare il moderatore, ad aiutare soprattutto, no? Perché c'è gente veramente messa la maglia, la cam, a pisello all'aria, gente defraquata, schifosa. Vabbè, niente, è entrato un giorno, questo unico è entrato, no? E mi ha offeso, ha chiuso un messaggio grande e grande, mi ha offeso. Cosa ho fatto io? Non ho detto niente, poi l'ho messo nel banno, questo unico. Dopo, non so, una settimana, questo tipo contatta questa tipa, solo sono contatti siciliani, no? E lei non riusciva a entrare. Io l'unico nick che ho messo nel banno era quello. Vabbè, diciamo fatto, non riesce a entrare. Se è quello che non riesce a entrare, mi ha offeso, ma ora c'è anche quello della stanza. Vabbè, niente, la tipa mi ha pregato, sempre questa qua stamattina, eh? Ed era quella che praticamente mi aveva pregato di smannarlo. Portami il suo salvo. Ma pregato, me l'ho smannato. E dopo comincia a mettersi in mezzo alle palle. Già, mette sempre in mezzo alle palle quando io faccio una cosa giusta. Perché io sto tenendo sotto controllo la stanza, deve essere, diciamo, controllata. No, vedi, ognuno di cioè, entra Gianni e fa di cattivo che vuole. Entra quello e fa quello che vuole, no? E se mi sembra, da, però alla fine, lo so come bene già da un pezzo, poi sono proprio assolato a far culo. Questa che è l'amico che si chiama Salvo. come si chiama? Sara? Ma no, lui si chiama Salvo, di Nick. No, no, sono siciliani già, ma tutti convinti. Ah, sai, io, una tappa che è successo, no? Questo tipo, non mi ricordo, stava comportando male. Mi fa, tu sei con chi ha che fuori, io sono siciliano. Ah, sei siciliano, cosa fai? Sei ha detto perché non sei con chi fare. Ma va a cagare, vai scemo. Guarda che una volta nella chat nostra è entrato questo siciliano e c'era una ragazza siciliana, mi ha chiamato e mi ha detto mandalo subito perché questo qua è praticamente fa parte della mafia, è un mafioso siciliano, mandalo subito perché sennò ce ne andiamo noi. Ma fatti capire anche siciliano che napoletano. Comunque io sono sincero, se non va a Napoli a dire a questo qua, cerca di cure o rompe la parolaccia, non ce l'avrei mai il coraggio, perché lì ti, ti mettono mano e poi in vedere, ah no, siamo ancora che offenderà lui, non penso, perché se non se ne vanno con le gambe loro. Vabbè. Sì, ma non attaccare in briga con questa gente, magari ti c'è più su Mafio Salvino. Di cosa state parlando noi, voi loro? Dai, io. Bisogna vedere come vanno le cose. Ma è uscito, non quasi lo su la TV. Ecco, cosa usava giù, lo usavo, come sapevi? Ripeto, ma di cosa state parlando? Noi, voi, loro. Boh, vabbè. E allora fatto lui dice, sono siciliano, sono napoletano, ma cosa vuol dire con questo? Cosa che tu sei? Che cazzo? Scusa, chi sei? Ho capito, ma ti devi un attimino calmare, perché poi a quanto ho capito non è che sia successo niente di che. Cioè se una persona ti fa saltare i nervi e stai così tutta la sera ottiene effetto doppio, perché oltre che ti ha offeso ti fa incantare tutta la sera e tu sei così tutta la sera. Vabbè. Non è quello per farti capire le persone, è così se ne approfitto. Alla fine è pure uno scooper, normale. Ma io conosceranno chi è, chi sono, loro non mi temono nessuno, mica non mi vado, no, assolutamente. Molti mi conosceranno chi sono, e devo fare a tu. Io accetto tutto, sai scherzo, tutto quanto, però quando mi sento preso per il culo, no. Ho offeso gratuitamente, no. Ma tutto più allora, scoppio. Luca, io ti capisco perché sono permaloso come te, è una brutta cosa essere permaloso, purtroppo non lo comandi e molte volte risenti in una maniera tale che ti senti toccato, appunto tale che proprio ti viene voglia di esplodere, ecco. Se la primo sul babbo, casino, vabbè, è come se io, no, è una chat. Quella sono la città napoletana, sono sardo, non lo dico. Dimmi anche per lui per dire, no, perché noi ci sono per il culo, ma loro sono inettamente ignoranti. Guarda, ti faccio entrare Gianni, no, questo che loro, noi ci fanno a pezzi, che siamo pecorari, che siamo quello, che siamo quell'altro. Ma la chat più uno, ma uno, che scriva correttamente. Io non ho fatto scuola, ho fatto le scuole che ho fatto, mi metto in tasca scrivendo. E loro si chiedono, io qua, io là, io quello, non so, ma puoi scrivere, vai, impara a scrivere, poi viene a parlare con me, vai. Cosa ti hanno fatto? Dillo a me. Via, per carità, va. E vabbè, comunque. Già parleremo di persona, già se capita. Vediamo. Ti posso prendere come un padrone superiore e poi sarei per darmi dei consigli, io li accetto. E allora non c'è problema, Avanti, Marco Condor, buonasera. Cappa, buonasera a tutti. Sono fatto adesso, ho sentito Luca che si lamentava. Cosa è successo? Qualcosa in chat dispiacevole? No, ma la chat, no. Sta chiamando avanti, chi è? Sì. Ma chi? Ma piano, ma chi sta cercando? Qui è tra l'altro, chi è? Ma che ha detto? Rosy Abbate, chi è? Aspetta che mi sfugge. No, il nome mi suona, ma non mi ricordo chi era. Chi era Rosy Abbate? Ah, io, non se ne ricorda nessuno. Questo nome, Rosy Abbate, chi era? Un per personaggio della TV, mi pare, sì, forse di un, come si chiama, quei telefilm di mafia, mi, quelle fiction di mafia. E infatti, vabbè, già stavo dicendo, tu sei permaloso, ma non bisogna prendercela, perché sennò già stai male tutto il giorno, perché al lavoro trovi gli stronzi, in strada trovi gli stronzi, al baracchino trovi gli stronzi, in chat trovi gli stronzi, quindi bisogna stare sempre di malumore, bisogna prenderla con filosofia, diciamo, prenderla dietro con filosofia, ecco. La fase lì. Kappa kappa, no, ma una questione caratteriale, Marco, non si può comandare, capito? Una questione caratteriale. Risenti molto di quello che ti dicono e poi di conseguenza rispondi, capito? È una questione caratteriale che non comandi, io non sono molto permaloso, un tantino però sì. Allora, Gianni, anch'io sono prima, forse nel 2008, 2009, che sono un mamma mia, per novità faccio qualche schifo, ma adesso non è che sono permaloso, non è quello, è che molte volte ti senti umiliato, no? No, va bene, non sono d'accordo, poi ti dicono cose che a me sinceramente non mi attaccano né a mura né agli altri, non ti svizzi, no? Non mi tocca, cioè, sono cose che non mi vogliono dire già. Poi una persona che io non accetto, tutto qua, non accetto, funziona. No, già che passi, però, ripeto, se ne ha voglia, io non ne ho voglia, se ne ha voglia, io non ne ho problemi. Se ne ha la mano, accettami. Al coltello più bello, chi era? Ma Luca con gente del nord ha avuto a che fare? No, era una rapida macchina, non so cosa non diciate. Cazzo. Ma aspetta, no, lo stesso, un'altra persona già. Questo è metà fianco a me, no? Però mio padre era rimproverato che facevo un casino con la moto, qua e là, e gli ha risposto male. Sincero, io non sono uscito, lui. E gli ha fatto più subito, non va bene. Non va bene che lui doveva rispondere a mia madre male. Io non sono avvisato. E tu sei bravo, Luca, qua c'è 18-19 anni, boh. Allora, di me, eh? Allora, ho detto, aspetta, te lo faccio passare, la prossima volta non ti permette di più, eh? Allora, la prossima volta esco io, e ti chiudo io. Sicuro che ti picchio. Ma non picchio, guarda, già. Io ho troppa roba dentro, troppa. Allora, mi dai da parlarmi, non mi piace. Quindi ho combinato quando ero piccolino, Guarda che ne ho... No, coltellato, ma perché se non era ce l'ho lasciato un coltello, eh. Sei dato, Buffi, ora tu rimani. Chi è? Ogni tanto se ne esce con queste cose strane. Chi è? Avanti. Capito chi è? Luca, pensa che io c'ho vicino a casa un bar di Billoi. Se dovessi adduffarmi per ogni volta che fanno gli spiritosi oppure che guardano storto, non se ne c'è più, capito? Un bar di Billoi, vabbè, non che ci abbia niente, ma c'è un Billoi, capito? Vabbè, poi non voglio entrare nel merito, però meglio sempre lasciar stare, da. No, quello che dico io è, se c'è un percorso non è normale che tu hai, ragione, insomma, quello che è male non è che ti ricagli a molto, oppure sorvoli e dice alla persona, per esempio, a me, smettila, è come domani e poi alla fine poi scoppi. Vabbè, quello sì, quello mi è capitato anche a me a scuola. Uno rompeva le balle, era un droghino, uno che fumava a cannoni tutto il giorno, quindi a scuola era stravagante. E un giorno gli ho messo le mani addosso, poi vabbè, si è messo l'amico di mezzo e praticamente i colpi sia me che lui l'ha preso l'amico che era in mezzo. Ah, io ne ho persone. Se vuoi attaccarmi, guai, guardate guai. delinquente o si mette a umiliare un'altra persona, no. Ma no, no, no, cosa cambia? Meglio. E com'è grosso questo tipo? Ma tu capi se è grosso o no? Non ti saluta. Se vuoi Luca ti presto il tirapugni di ferro, quello fa veramente male, è bello, tutto cromato. Però un'altra cosa, non ho bisogno di tirapugni. Ma lì ne basta uno, mi Luca, basta un colpo e quello ce ne scende subito. Che riesco, mi fanno con le mie mani. Gianni, sei silenzioso, parla un po'. Ti ho sentito meno in questi giorni. Poi un caso, entravo poco io, ma non ti ho sentito negli ultimi due giorni. Stai bloccando, mi ha fatto addormentare. Ma mi sento incantato e non è rimasto attivo. Vabbè, sarà stanco, poveraccio. Ti hanno fatto un po' pesante, sembra così, anche se è un uomo grosso, no? È grosso, ma anche lui ha diritto di riposare. Vuol dire che per lui quello che diciamo noi è insignificante, allora si addormenta. Certo. Lui, tu faccio, qua c'è una donna incantata che mi viene mal di, c'è un morotto, ma costretto, stretto. Mamma mia. Capita. Poi con la notte passa un po'. Oggi sono uscito, porca miseria, il portatile, il computer portatile, aveva la chiavetta internet, non l'ho usata per un anno oltre, e non funzionava più, me l'hanno annullata, no, alterata, annullata, l'ho dovuta rifare, 30 euro, tutto il traffico, e non è l'abbonamento, è ricaricabile, tu metti 10 euro, usi 10 euro, quando è finito ricarichi e continui a navigare. 90 centesimi l'ora per un portatile, non per un tablet. No, non faccio niente di quello lì. A me serve la linea fissa, mi basta quella, è poco. Lo so, per esempio se vuoi scaricare film e musica da Emule con le connessioni telefoniche te le filtrano, il segnale basso è lento, i bit sono lenti, capito? Sicuramente loro mettono dei filtri in modo da non poter usare emule o simili in fretta e quindi non vale la pena. Invece con la DSL è una scheggia, non ha filtri di nessun tipo, io ti parlo di Tisca, lì è. Poi c'è qualcuno che filtra anche il P2P, no? I programmi di scaricamento file. E la cosa la faccio ogni tanto, siccome c'è gente molto esperta, no? E ti fottono la linea, quindi tanto la conto una mattina, metto nel palo di controllo della rete, se non vedo anomalie oppure un infiltrato. Appena lo vedo lo crepo subito. Ecco, il tuo modem, le seconde che avrò la password. Gianni, fai di salutare per nuovo meco. Perché l'unica volta che si connette alla mia rete, anche se è protetta, io lo blocco subito. Faccio, farà una via male a me sicuramente, però io non ci nacque alla mia rete. Fate poco ma sicuro. Naturalmente è rete wifi, no? Di questi tempi Luca è un casino perché anche se hai la password buona, no? Quella più complicata, c'è un programma chiamato Backtrack o Backtrack, funziona sotto Linux, no? Con quel programma tempo un paio d'ore, dipende quanto è difficile la password, può passare da un'ora a tre ore e praticamente ottieni la password e puoi entrare quindi in teoria in qualsiasi wifi protetta, ecco. Scusa un attimino, visto che è così, su qualcuno c'è vicino un lì in zona da te, qualche rete che è protetta, tu potresti fare, no? Beh, in teoria sì Luca, però io ho già la DSL Tiscali. Non l'ho mai usato in realtà perché siccome è un programma che funziona con Linux dovresti provarlo emulando Linux, diciamo, da, insomma è più una seccatura che altro, però si può fare, è molto valido quel programma, penso sia il migliore. sono programmi di hacking, quindi, per scovare appunto le reti wifi. E pensa che se gente in cattiva fede può fare qualsiasi cosa, quando entra nella tua rete, può fare terrorismo, tra virgolette, atti illegali, capito? Pedofilia, per dire, no? È vero che cercano il padrone della DSL e poi... vabbè, diciamo che loro se ne accorgono anche da l'IP del computer, non è che... entra e usci in macchina, cioè volendo, mentre facciamo capire adesso uno entra, fa un esempio, no? Quali siti di pedofilia, per esempio, e mica loro risalgono a me, ma assolutamente, perché al computer si sa che se quella con questo tipo di computer ha un IP, penso che sia così, non hai visto usci in macchina a prendermi a me, ecco. Tu che sei quello ti fanno del male, è curia. Ce ne sono. Volendo si mettono e ti fanno del male, come. Comunque niente, dai, ti ho toccato. Lasciamo di fare. A me ti ripeto, anche a me non mi basta. Mi butta giù. Cioè stai con programmi, spazio, musica, film no, perché non mi interessa, non ne guardo, però musica così sì, non stai con me, vabbè, che a me, poi programmi e un casino, qualcosa di lì, ma finché riesco a pagarla, non riesco più, pazienza. Eia, vabbè, musica sì, ogni tanto, quando c'è un nuovo disco, mica vado a comprare il CD, che stiamo scherzando, io me lo scarico, perfetto, e poi se vuoi la massima qualità ti scarichi quelle versioni campionate a, diciamo, 320 kilobyte al secondo, è come avere il CD quasi. Certo, va bene, legale, ma siccome io sono povero le scarico, quando sarò ricco da potermi permettere i CD a prezzo pieno li comprerò. Sì, beh, certo, qui ho stato disattivato alcune, un casino, no, ma sto cercando qua, niente, no, quindi da qua controllo io. E ti faccio vedere una cosa, se io apro la rete, no? Ci metto un attimo ad aprirla, metto 10 secondi dentro il modem, levo la spunta e ti faccio vedere la chat che si connette a me. Addirittura Luca, io siccome ho molta paura di questa cosa, io in realtà la rete wifi la uso poco, io ho il modem Tiscali, no? Perché serve anche per il telefono, se tu hai quel modem Tiscali non puoi telefonare, no? Perché è una linea digitale. Quando metto il wifi io spesso controllo che non accede nessuno, perché c'è una fifa, ricordati, se uno entra nella tua rete wifi quello che gli inquirenti vedono è il tuo IP, vedono il tuo IP, quindi nel caso vengono, sequestrano il computer, controllano che non ci sia niente, poi capiscono che non sei tu e lasciano il tuo perdere, però nel frattempo arrivano e sequestrano, magari se lo tengono un anno il computer, un anno, due anni, capito? Quello che vale è il tuo IP, ricordati, poi se uno accede con la rete wifi non si possono accorgere assolutamente che sono altre persone, capito? Vabbè. La mia password non è difficile, è molto facile, praticamente la data di nascita, vedi un po', non è tipo A grande, N, L piccola, poi un numero, poi A, B, C per dire, no, grande, no, dei numeri ho messo, prima era diversa, prima si chiamava la artista lì, io sono un po' strano, no? Proprio il modem era la artista lì. E c'era quel codice lì, adesso non mi ricordo com'era, DD068, sa, codice così. l'ho cambiato, perché mi veniva ogni volta, no, ma lui mi chiamava male, invece qualcuno con una data di nascita per veloce, non perdi tempo. Lo sai che Luca, che quella è una password debole, molto debole. Prima ti stavo dicendo, io per connettermi alla rete wifi avevo adottato una password lunga, almeno 50 caratteri, se non 100. Praticamente erano 50 numeri. Quindi era una cosa lunghissima, infinita. E tu mi dici, come facevo a ricordarla? Non la ricordavo. Lo tenevo in un file di testo, quando dovevo inserire la password facevo copia e incolla e accedevo alla linea wifi, perché una password così corta è un pericolo, Luca. Almeno con una password talmente lunga ci mettono molto più tempo a scoprirla, molto più tempo. Era difficile, adesso non mi ricordo, senti, c'era la password complicata, la Vodafone, minchia, io sono andato a mangiare a Sandrino, no, con questo mio amico, e c'era un telefonino, no, siccome è wifi, e gli ho chiesto, presidente, se ci dava, si faceva connettere all'internet, se dovevo fare una cosetta o un telefonino. Siamo entrati dentro in segreteria da questa tipa e ci ha dato la password, quindi non era difficile, diciamo che una volta l'abbiamo sbagliata, era un bel lunga, un bel strana. Eia. Io poi mi ero scaricato un generatore di password. Praticamente se tu non hai la fantasia di scegliertene una, te la puoi fare, puoi mettere numeri, lettere minuscole, lettere maiuscole e tutti i caratteri speciali, tipo punto interrogativo, chiocciola, di tutto. Praticamente puoi fare delle password complessissime, te la puoi fare lunga quanto vuoi tu, mi pare fino a 20 o 30 caratteri. Naturalmente non te la puoi ricordare, devi mettere un file di testo nel computer, poi quando devi entrare fai copia e incolla. Va bene, vediamo se Gianni è all'ascolto. Attento Gianni. Sì. Ecco, è sempre la radio, la continuamente bene. Bene, ora forte. Di lusso, ascolto benissimo. Dimmi, chi è che mi ha chiamato? Ciao Antonio. Mi chiama Marcolino, eh. È stato difficile, mi chiama sempre. Ciao Marco il Condor. Ciao. Ciao Antonio. Che voce calda che hai? Mi metto a Reggiani, che è la voce calda della frequenza. Cos'è? Per chi suona la campana? Ehi, la campana mortue. Chissà che sia la volta buona, ma... Speriamo, io te la canto. Cosa? Te la Luca, te la suona? E Gianni me la prega. Sì. Ma con che microfono stai uscendo? MC60. Aspetta. Sei proprio preso, sei sistemato allora. Comprati una spugnetta però, Ce l'ho, però l'ho tolta, non mi piace vedere il mic così bello lucido. Poi sai cos'è, parlando a 25-30 cm di distanza, non ci sputazzo dentro, capito? Perché la spugnetta? Per qualche particolare motivo te la fa più ovattata, più calda, boh? No, ti mette nella condizione innanzitutto di preservare il microfono perché non ti fa entrare polvere, ma a prescindere un minimo di attacco con lo sputo, cioè che non è saliva, sputo inteso come spa. Aspetta che la metto e proviamo. Bene. E abbiamo la roba, io usavo l'MB più 4, all'inizio usavo il 60, andava bene. Guarda, ne ho una che secondo me fa per te, che è l'IC728, quando verrai qua te la faccio vedere, è uguale a 140. IC728, guardatelo su internet, è la risposta al 140 della ICOM. Scusa, ripeti, IC728. Scusami, 728, IC728. Sì, ecco qua. Immagina la T attivo il C728, sì, sì, uguale infatti. Allucinante, vabbè, il timbre è molto molto più bello. No, è brava la radio questa, eh. C'ha il manopolone. È bellina, diciamo, da. Band, mega. Questo cosa com'è? Com'è il scansione 240, uguale? Uguale, è uguale, soltanto che ha meno pulsanti, la vedi meno grandi perché c'ha dei tasti integrati che schiacciano un pulsante di funzione hanno la doppia funzione i pulsanti stessi, capito? Però è preciso. Come radio, come esce? È un centinaio, come potenza è uguale. No, dico, dimmi microfonica, come il 140, no? Guarda, se vuoi l'attacco, che non è giovane, perché devo fare una serie di cose per attaccare la rottura di balle. Stesso prezzo di un 140. Nuova o usata? No, nuova non esiste più, non credo esista più, è sempre usata, però la differenza è che di questa trovi anche i pezzi, il 140 ormai stanno iniziando tipo la mascherina, un po' una rottura di balle, perché quella che c'ha ti devi tenere, questa la trovi tutto. E dopodiché c'ho lo Yaesu FNG, scrivi FNG 100, Yaesu FNG 100, chiaramente Yaesu con la Y iniziale. Eccomi qua, ho messo la spugnetta, ditemi se cambia qualcosa. E devi far vedere le due differenze ravvicinate, comunque è buona, è più, leggermente più aguattata, cioè non si sente il rumore di fondo eccessivamente. Ecco qua, stesso tono di voce, stessa distanza dal mic, prova, non è che me la incupisce, no? Ma tu vai per FRG, giusto? Cappa, guarda, non si è notata nessuna differenza, Marco, l'unica cosa è che forse ti toglie un po' di eccesso di fondo quando non c'è. Ho capito, ma vediamo se tenerla. Tanto io, tu, conta che quando non lo uso lo copro sempre il microfono, così l'apparato, metto un coso rosso, un telo rosso e non prende polvere. Cappa, Ruggero. Ma tu WhatsApp ce l'hai? Come? WhatsApp? Capo WhatsApp? No, non so cosa sia. È nel tablet, forse l'ho visto, non... a cosa serve esattamente? È una specie di appare di cosa, come si chiama? Di come si chiama? Skype? Fa chat più o meno, ora ci scrivi, messaggi. E poi c'è il Viber che puoi chiamare anche. Ma non è una foto tu, non è fatto col cellulare. Scappa, perché non si vede molto. L'ho vista, ma perché me l'hai mandata? Aspetta, te la mando, perché non mi ricordo il tuo numero, rimane, cioè ce l'ho, ma non ce l'ho segnato, poi è strano, aspetta un attimino. Ti guardo su WhatsApp come si è registrato e poi te la mando. Il numero 347 è facile, 54 201. Tanto già, non posso niente a nascondere a tutti. Ripeto, 347 54 201. In la notte è tarda. Ciao, è tardi. Lo stesso. Ma che c'è? C'è un cavolo attaccato. La porta è chiusa, va. Banco puro va. Prova. E se no la mamma di su Facebook con le malattagiate, vediamo un po' questa station. La sto mandando su WhatsApp. D'accordo. Minchia che scariche. Che è temporale? No, ma è temporale no, però c'è qualcosa di elettrico, tipo relè, tipo autoclave, che ciclicamente senti. Tanto me la vedi, Bella. Aspetta, vuoi la radio? Non c'è quella? Ah, sì. Come c'è in mezzo? Va bene, dai, ce la inizia appena, poi. E lo piano. Tu sistemi come ti comanda. Tu mi hai preso questo mobile, tu? usa una scrivania che ho modificato, ma ce n'è ancora, ci sono tutti gli apparati della 27, non ce li ho, non ci sono, c'ho il Galaxy, il cosa c'è poi, il non mi ricordo cosa c'ho, ne ho altri due, l'Inuit e non mi ricordo che cosa, i baracchini hanno aggiunto un Carascio poi, ma un Carascio, a proposito c'era quella persona che dovevo dare, non si è più sentita, adesso la devo chiamare. Ma chi tipo? Uno che era amico di Gigi Vulcano e devo contattarlo per dargli un baracchino e un'antenna. Come ti capisci a me, no? Oh, c'è un paio di roba. Poi c'è un paio di roba, tipo vedi. C'è un paio di roba, c'è tu qua, no? Poi mi muscola però. Cosa mi trovo un paio di roba? E poi che qua là, non c'era niente, non ho vecchia. E poi te ne contesto, come ti hanno trovato le antenne nuove, bomba, poi c'è roba in garage, qua e là, e poi alla fine puoi aiutare. Tu immaginati che qua manca ancora la metà della stazione che c'ho dall'altra parte nell'altra casa. Antenne ne aggiungo un Carascio a velo, nel senso che del ringo ne ho mi sembra 4, 5, boh. Così tante. Perché avevo convinto questi tre amici, compresa la mia ragazza, a iniziare a modulare. Aspetta. Stavo stanottendo. Morale poi non gli è. Il problema del baracchino è una di quelle cose che ti deve nascere da quando sei piccolo, se no non attacca, capito? Allora ti diverti due tre code, due tre volte e dopodiché lo metti da parte. Questi hanno fatto la stessa cosa e mi hanno restituito apparati che gli ho rilevato per pochi spiccioli e le antenne me le hanno regalate. Ho capito. Ma è vero comunque al poco. Se non ti nasce da giovane, da piccolo, no, alla fine non te la frega niente. Io avevo cominciato a 13 anni con quei portatili della Dreat, 3 watt, 3 canali. Io ho sentito Falcone, infatti, la prima notte proprio, mi è capitato lui. Ti volevo chiedere, tu una volta avevi spiegato al baracchino che ti eri preso tanto tempo fa l'Intec Fox 90, mi pare, è lo stesso aborto di baracchino che ho avuto io. Non ho mai odiato nessun baracchino come l'Intec Fox 90. L'Intec Fox 90 devi sapere che è quello che poi mi dà il nome, perché Fox significa volpe, siccome volpe ce l'ha già, allora volpe sarda, ci siamo usciti a grotte. L'Intec Fox 90 è uno dei baracchini, diciamo, era uno dei più evoluti allora, che fra l'altro non prevedeva nessun tipo di variazione all'interno, non potevi fare niente, cioè, ce l'ho tuttora, ed è il primo baracchino che mi sono comprato. Tu immaginati, l'avevo preso da come si chiama, qui in Via d'Italia, dove lavorava questa boccia di pomponio. Da usai. Esatto, me l'aveva data in una scatola vecchia, tutto gaggato, e l'avevo pagato, se non erro, mi sembra 100.000 lire. Ho capito. Io non mi ricordo francamente dove l'avessi preso, però non lo so, poi era una friggitrice, secondo me, sempre troppo QRM rispetto ad altri apparati. Lui aveva un porco difetto, e ti dico qual era, io lo mettevo in macchina, bastava che tu avessi 1 a 3 di stazionarie e cominciava a uscire tutto giù. Sì, no, ma poi guarda, che fosse una friggitoria, cioè io ce l'ho tuttora, e nel museo ce l'ho ancora di allora, il primo alimentatore che era uno ZG di quelli col coperchio in ferro, e da, mi sembra 2 ampere neanche, e dopodiché questo baracchino qua, ma gli si è rotto anche lo slide dello squelch, quindi un casino, fa che la metà basta, però esce davvero davvero bene. Esce bene. Cappa. Ma tu ce l'hai ancora quello lì? No, l'ho sbattuto al muro tempo parecchi anni fa. Mi trovavo male proprio, non mi è piaciuto. Io, voi tra i tanti, non mi ricordo nemmeno quali ho avuto. Allora, io ho iniziato con i portatili di 3 canali, poi un portatile 6 canali Inuit, poi un XTAL 23 canali, poi il Midland 77-824, poi se Midland 150M, poi sono andato a livello di l'FM500S, il Maxcon 7, poi fammi fare mente locale, il Dynacom 80 portatile che mi ha bruciato un cretino, poi l'FM548SX, poi il Multimode 3, poi il Suzuki Samurai o come si chiamava, guarda, no, questi sono quelli che mi ricordo, gli altri poi no, non me li ricordo. No ragazzi, voi io non ne ho avuto così tanti, non ero così ricco, io ero e sono un poveraccio, quindi ne ho avuto uno e me lo sono tirato avanti per parecchio tempo fino a che non ho ripreso poi. Io avevo, mi sembra, 14 anni, ne sono certo perché mi avevano bocciato il primo anno di geometri per il baracchino. Poi aspetta, a parte il Multimo di te, ho avuto il Viking 2 che poi avevo prestato a Armando, è un prestito ventennale, è stato, ce l'ha ancora, gli ho chiesto se me lo dava che, per modulare, ma poi non si è più saputo niente. Poi cosa cacchio altro ho avuto? Vabbè, robetta, portati l'intec del cacchio, non valevano niente. Poi, vabbè, il Connex 4000 Echo che ho tuttora, vabbè, roba niente di alto livello, da. Allora io ho sognato l'Alien Quintor, me lo stavo sognando, poi l'MS200, la Fayette, quello è stato un sogno nel cassetto, anche se era un baracchino strano, mi piaceva, tanto poi mica li pagavo io, tutti i baracchini che ho avuto li pagava mamma, tanto. Insomma, eri un viziato, dai. Adesso sei diventato vizioso invece. Meglio. Ma poi modulava mamma principalmente, la concessione era nome suo, io ero inserito e basta. Poi vabbè, è andata a lavorare in Gallura, ha modulato anche la Maddalena, ha modulato in quell'altro postaccio infame che non mi ricordo nemmeno come si chiama. Poi metà anni 90 ho smesso io e ho smesso lei, perché la 27 non so perché cominciava a non piacermi più, era l'anno di grazia 1995. Ma lei come non vuole più modulare? No, lei sa cos'è, forse è lo stesso motivo della tua ragazza, che praticamente sono tutti maschi qua, una ragazza in mezzo a tanti uomini si trova male. Se ci fossero più ragazze con cui modulare, con cui fare concione, posso capirlo, ma così non so, anch'io mi troverei a disagio essere donna. Essere donna diciamo in una frequenza di uomini. Ah, però se ci fossero state un bel di donne da solo maschio, secondo te? Da farsi a porco, così è. Non lo credo. Guarda Luca. Guarda a me. Ma si abbassa qua? Sai, l'ho abbassato, no? Ma non è. Non è 13,8, ma sta arrivando a stock. Come no, eh? Già farò lavorare bene. Non è 13,8. E quanto è perché? Più basso. Oh, là. Ma adesso sei nella station, no? Paroge, minimo potenza, quadrimanda, IC706M2IC. Tanto, come attività di ex, come siete messi? O soprattutto tu come sei messo? Io un ben male, ma ti ripeto, adesso che mi sono finita la stazione, adesso finisco il parco antenne e inizio e poi butto tutto. Butto tutto no, tu la passione ce l'hai avuta già da tanto, quindi dovresti durare, e poi hai raggiunto un traguardo abbastanza importante, e quindi se riesci ancora a mantenere la passione è una buona cosa. Ok, cosa ti volevo dire? Che io comunque sia, dei baracchini che ho venduto me ne sono sempre pentito. Ti spiego perché. Quello che ti ho nominato prima, il Midland 150M, non era altro che il precursore dell'Alan 48. quando non esisteva un 48, il modello precedente era quello. È molto ben considerato adesso, addirittura praticamente nei laboratori di Baracchini, gli elaboratori praticamente te lo fanno così come il 48, con doppio modulatore, stessa cosa. Ascolta, come ti sta arrivando come segnale? Come sempre un attimino meglio o peggio? Fammi guardare, ho fatto tutto. 9.22, 9.23, dai. Un attimo. È 25. Adesso sono a massima potenza. Ehi, a 9.25 con... vabbè, sbagliato. Con picchi oltre i 30. Vabbè, la radio va bene. Quello qual è? Il quadro banda, aspetta, sto soffocando. Questo è il quadro banda, aspetta che ti do anche un po' di microfono in più, un attimo. Così il microfono è al massimo, infatti lo abbasso. Ora se così va meglio. Sì, bene, anche prima andava bene, però se è appena più alto meglio ancora, che io sono sordo. Ho le orecchie pelose e non solo. Ma queste cose è meglio non crepparle, perché non sono apparati fatti per andare in AM, capito? Questo fa tutto in... No, sono bugiato, va benissimo, ma curioso, purtroppo un confronto molto più spinto. Sto cercando di parlare piano anche, perché mi spinge molto, sai cos'è? Vorrei evitare di stare avanti e indietro col Mike Gain, se no si sbarra quelli slider del cacchio che gli hanno fatto, potevano mettere uno schifosissimo potenziometro, sarebbe stato meglio. Infatti nel 440 c'è il potenziometro. Eia, perché questi slider, come vi chiamate, non si ballano i gruppi. Comunque, tanto io premetto che preferisco e ho sempre preferito gli apparati canalizzati, cioè i volgari baracchini, magari non omologati, qualcosina di più bello, tipo Supercar. Questo l'ho preso giusto perché era un'occasione ed era visibile sul momento e acquistabile sul momento, perché per posta non si sa mai cosa ti arriva. Perché c'è gente che poi gli sono arrivati dei caparli, di scacciavitatti e roba del genere. Adesso io in macchina, non con tetto del Superstar 3009, che è semplice, mi volevo prendere il Magnum Omega Force S45 HP, che ha il Top Gun Modulator e tutte quelle cose per far uscire veramente forte il radio. 80 watt in SSB, 50 in AM modulati, ti dà un watt di portante e 45 modulati. Un bel apparecchio, eh? Decisamente. Datemi un attimino di quel RX che devo finire una cosa un attimo. Va bene, va bene. Così quasi me ne vado al quadrato a fumarmi una sigaretta. Io chi viene? Io. Volentieri, ma si è passato più presto, adesso sto cominciando a diventare, a rientrare nello stato larvale. Vado a bermi un'acqua atomica da Lavana, quasi. Qual è Lavana? Quello al quadrato, quello con la paglia. Quello dopo. Bar di delinquenti. Non le dite queste cose, non le dite. Quello dopo, attenzione. Mi sono, guarda, a me mi hanno sempre trattato bene, è un posto dove se ti comporti bene ti trattano bene, se vai lì per rompere le scatole e biglietti a fuochi al nastro. Ah, perché vi fuori, se no? Ti ripeto, a me io non ho mai avuto problemi, perché bene ho trattato e bene mi hanno trattato. Tutte le cose che si sentono dire, a me, ti ripeto, mi hanno sempre trattato bene e di conseguenza mi sono sempre comportato bene. Altra gente che di cui si diceva brave persone, non so che cosa, si sono comportate che Dio ne scampi, quindi non ci credo più a queste cose, capito? Alle dicerie, alle cose, ma anche se fosse, bisogna trovarci sì sulla strada prima di dire le cose. No, io sarà un paio di vuoto con i biasi blu più zero, zero completamente. Sarà un paio, proprio un paio di vuote, due volte, lì al capitano Lucino, è un barrice a fianco stesso. Qui se mi siete di giù, guarda, siete l'occhia. Io scherzo, cioè, io sono andato più e più volte lì, non mi ricordavo il nome, niente da dire, ti servono tranquillamente con i guanti in velluto. Diciamo che a notte fonda magari puoi trovare personaggi strani, tipo Mangianciume, personaggi strani diciamo, di passaggio però, non sto dicendo loro. Guarda, io però te lo dico senza paura, comunque senza remore. Io al pari di come tratto con delinquenti, tratto con la persona seria, con il direttore di banca, per dirti. Nel senso che rispetto loro e rispetto voglio. Quindi non è che tratto in un certo modo con delinquenti perché ho paura, però rispetto loro e rispetto voglio. Nel momento in cui mi tratti bene, non me ne affutti nulla, poi cosa fai dopo? Certo è che ci sono determinati delinquenti che, a prescindere, perché uno dice tratto bene anche col pedofilo, no, aspetta, non è solo perché a me non mi fa niente, lo devo considerare, devo avere considerazione con lui, quello gli staccherei le cose e gli rifilerei nelle orecchie. Certamente, quello sì, e poi se ci pensi bene, le pene per quel reato sono già fissate, no? Perché ci sono poi quelli che brucierebbero tutti, no? Impiccarebbero tutti. In realtà le pene sono già fissate anche per quel reato, per quanto brutto sia, la pena di morte non c'è, diciamo. Non qua, in Cina forse c'è, e fanno anche bene comunque. Questo è... lo volete vedere un sito brutto, brutto, brutto? La Nuova Sardegna. Il computer di fronte ce l'hai? No, Anto, è nell'altra stanza. Ma di che tipo? Affidabile? Assolutamente sì. In breve succede questo, che in Messico ci sono due bande di narcotrafficanti che sono gli Z e i cartelli del Golfo. Fra di loro si fanno la guerra e pubblicano su questo sito, che è un sito accessibile a tutti, come si scannano l'uno con l'altro quando si trovano, quando riescono a catturarsi, capito? E vedi delle immagini davvero assurde. Ma non c'era rotten.com? No, Rotten è una cagata in confronto, compa. Qua ci sono i video di come si ammazzano proprio. Stiamo parlando di mondonarco.com. Mondonarco.com, ci darò un'occhiata. Interessante. E qui è gente molto gentile quella, mi. Tra bande sono molto gentili. No, ma non puoi capire. È mondonarco.com. È una cosa di uno squallore unico. Io non so davvero come lo facciano andare a rete questo cosa, però essendo un punto com non si può bloccare, capito? Teia, mondo. Perché così è? Il punto com non si può bloccare? A livello nazionale no, a livello internazionale, cioè è molto più difficile, mentre invece a livello punto it, a livello locale te lo bloccano subito se ci sono cose che non vanno. Allora, dipende dove il server che lo ospita. Per esempio, se fosse negli Stati Uniti, capace che con la loro censura l'avrebbero già eliminato. Potrebbe essere il server in zone, diciamo, che non siano potentati degli Stati Uniti, in poche parole. Magari in Nicaragua, in quei posti là strani. Possibile, ma può essere che ce l'abbiano direttamente lì in Messico. È una cosa assurda da vedere, però guarda, ci vuole stomaco. Tu immaginati che staccano macettate la testa di un ragazzino di 13 anni, minchia. Oh, e fanno vedere tutto. E le riprese chi le ha effettuate? Come il figlio, quando ho capito, di uno della banda dei rivali, lo riprendono per poi metterli a pubblicarglielo su internet. Ah, come fa il Taida quando taglia la testa ai narici americani? Oh, ma guarda, a paragone è nuda proprio, stiamo parlando di bambini contro persone adulte. Bobo, purtroppo, mamma mia, al mondo lì che ce n'è gente cattiva. Gente proprio che non ha scrupoli di nessun tipo. Sì, ma guarda, se guardi questi filmati tu capisci come davvero l'uomo è un animale, ma a dire l'animale è offendere l'animale, perché l'animale ammazza per mangiare, l'uomo arrivare a fare queste cose, queste cattiverie, è assurdo. Oh, non c'ho su Google. La barra si di YouTube. Apri, clicchi su, aspetta, su Explore, no? Ti apre, almeno apri, se no non uso altri così, io uso Explore, no? E in alto, se tu guardi, c'è una barra dove c'è scritto YouTube. YouTube è altri siti, non mi appare più. Perché l'hai tolta dai preferiti, se si clicchi col tasto destra su quella barra ti dice la possibilità di rimetterla, da un bar. Allora, qua c'è, come spunta, barra del menu, è ok, barra dei preferiti no, barra dei comandi no, io ho tutte provate, niente, non lo fa fuori. Dovrebbe essere barra dei preferiti. No, no. No, nine. Strano, cazzo. No, provo a vedere un po'. Adesso riapri il computer. Strano però, non ho toccato niente. Che bella invenzione per il tablet, eh? Perché ce l'hai, stai guardando? No, no, guardando no, però io praticamente ho due fissi, uno di riserva più che altro, poi il portatile da 14 pollici o 15 che sia, però portarlo che ne sono i bar è un casino, è pesante, lo devi poggiare, invece il tablet. Ho preso uno da 7 pollici di marca non troppo rinomata. È comodo, c'è poco da fare, lo tieni con due mani, puoi navigare, controllare la posta, chattare, tutto. Allora, questo è, Anto, questo è un Mediacom, la sigla com'è, un Mediacom tipo 70, boh, porca miseria, non lo ricordo. Praticamente l'ho scelto perché aveva il 3G, la connessione con SIM. Gli altri non ce l'avevano, con wifi non ci faccio niente, io ho bisogno della connessione proprio per internet tramite rete cellulare. Costava 175 o 179, praticamente ha tutto, navigatore, tutto quanto ha, praticamente un Samsung avrei pagato molto molto di più con le stesse cose. Mediacom. Questo è ricchissimo, ma porca pura. 39. Era 39. Che palle. Che fa ricchissimo del sistema? Eh? Ha detto che a Sassari c'è gente cattiva. Ah, mette? Forse c'è la Sassari. Ciu-ciu. Sono le paese. Chi la conosce l'applicazione Zello? Zello? Zello con la Z. Con la Z di Zorro? Cos'è? Con la maglia? Praticamente simulano il baracchino. Premi il PTT e parli. E poi lo lasci e senti gli altri. Capito? Non è full duplex, è come il baracchino. Premi e parli. No. E di solito il canale più frequentato si chiama Gli Amici del 30. Amici del 30. Eia, è un gruppo di persone tipo noi che anziché usare il vero baracchino usano quello. È un divertente, diciamo, però è meglio la radio, da onde radio, cacchio, non computer. Eia, casino, da scoglionamento totale. A tu io avevo adatto. Tornato, mi stavo mangiando una fetta di melone, la faccia vostra. Il bello è poter trasmettere su tutto e avere la possibilità di avere tutte le bande, tutto. Tutto. A tu, se vuoi anche io guardo una pezza di melone, c'ho melone, c'ho pesche, buone, sono le pesche, uno spettacolo, buone. Proprio gustose. Ho detto melone fresche, frutti, l'uva, miele, dolcissimo, e le banane. Non te le so che non te le mangi. Senti, però le fresche noci. Fresche noci, sì. Buone, veramente buone, gustose. Buone. E le ho pagate. Adesso metti come viene, un consiglio ti do. Vai a comprare la frutta lì di Pascoli. Praticamente rimane di fronte alla fermata del tram, dopo l'incrocio di via Gassella e Redda, andiamo verso il Ponte Nuovo, lì c'è un chioschetto lì, Però la frutta lì, guarda, infatti costa poco ed è buonissima, veramente è buona, roba fresca. Guarda, ti dico una cosa che avevamo fatto, avevamo comprato la frutta all'Eurospin, le pesche nocciole dove solamente sentire erano buonissime, a parte a me piace anche mangiare l'ananas ed era lo stesso ottimo. A prescindere da questo, durante la ciuchita d'oro, quando hanno fatto quella manifestazione, abbiamo fatto 30 litri di sangria. Io pensavo di riportarmela a casa intera come l'avevo portata lì, sai cosa? Perché poi non l'avevamo neanche raffreddata ed abbiamo fatto le pesche nocci e il vino di Dorgali. Non puoi capire, alla fine non ne ho potuto bere io perché si sono bevuti tutto, sai cosa vuol dire tutto? Sì, sì, no, io le ho spinto quasi più volte, ma sincero, poi i meloni ne ho preso da tante parti, ne ho preso anche allevo spin da poco, ma dai, io vado a questo Mauro, lui lo sa già, il melone che prendo io, mi prendi quello, lo fa, me la ratturo, è buonissimo, va, buono, veramente buono, dolce, fino alla tua cosa lo passi proprio in fondo a come si chiama? Una buccia, no, diciamo, ed è dolce, veramente va, ottimo. Mi alzo, guarda, me lo mangio un pezzo. E sa quanto il chilo? Vabbè, la settimana scorsa era appena 9 centesimi. Quell'ultimo ho comprato, che è avanti ieri, me l'ha fatto fare di più, perché dice che stiamo finendo i meloni, a 69. Vabbè, comunque un melone da... Che cosa è successo qua? Un melone da 5 kg, 2,50, 3 euro, dai. Già va bene. Io mi sembra che 3 li ho pagati 1,80 in Piazza d'Italia. Non è tipo, ma è giustissimo. Ora sta preparando il desktop, vediamo. Infatti tu l'hai sparito tutto il buono. Il 30 c'era. Cos'è che manca? Manca l'ora. Ecco. Vediamo cosa lo fa ancora. Guarda, questo computer è... Aspetta, vediamo. No, non c'era tu. Come mai? Non c'è la barra, come mai? Strano, ok. Che è successo? Ma non è meno. Te l'ho detto, tasto di destra. Dopo che ti esce la tendina, lì devi selezionare. No, a me mi usciva la barra in alto. No, che c'è nascosta, no? Immagini. Accedi. No, come ripeto adesso. Ma c'è un problema di loro sicuramente. Che sistema operativo usate? Windows 7. Sì. Io praticamente sia sui due fissi che sul portatile ho XP, e quando questi computer passeranno a miglior vita li piangerò. Una cosa, come si chiamava quel programma per poter entrare nel computer di una persona? TeamViewer. Come? Ripetilo. TeamViewer, no, si chiama così. Però è scritto V-I, ciò qua. V-I-E-W-E-R 8. Io lo chiamo TeamViewer. Ecco lì. Ma che programma è? Di hacking? No, quello è un programma per fare connessione remota. Praticamente sì. Quelli belli degli anni d'oro erano Sub7, Netbus, Phoenix 2, poi c'era quell'altro che funzionava in UDP, anziché pacchetti TCP, no, connessione TCP usava pacchetti UDP, era fenomenale, era quello, bella roba. Cioè come funziona? Adesso se mi dovessi consigliare qualcosa, cosa mi diresti di prendere? E tu, adesso la gente ha tutto l'antivirus, poi ha il modem che fa da filtro, come ci fa? Una volta erano con il modem 56k, niente antivirus, entravi e il computer diventava tuo a tutti gli effetti, potevi fare qualsiasi cosa. Invece adesso, ma non perché lo voglio fare, ci mancherebbe, era giusto per vedere se ne ho uno io dentro. Vabbè, non si può determinare così. Poi c'era qualche idiota che con Windows 98 condivideva tutto l'hard disk praticamente sulla porta del NetBIOS. Entravi in pare dal DOS, dalla sala schermata nera del computer, no? Con i caratteri bianchi, dal DOS, quindi tutta riga di comando, non tastini. Condivideva tutto l'hard disk, ma c'era gente folle, folle con cose folli, con vabbè, lasciamo stare. Comunque Windows sotto fa praticamente cagare, mamma mia, cosa aveva XP prima era, adesso non lo so, mattina ma ho preso mano con Windows 7 e guarda la grande, e mi trovo bene, diciamo, non ho nessun problema. Il problema è che XP va bene dove sto io per l'audio, però come cosa secondo me è meglio Windows 7, insomma, sulla scheda audio, ovviamente una scheda audio USB, e lo uso praticamente come un XP, ma è molto molto superiore. A parte il fatto, questo è un signor computer, una bomba, sicuramente più veloce, non ho nessun problema. I miei sono abbastanza vecchi, tra virgolette. Uno è comprato nel 2003, poi mi ero fissato che non era veloce, avevo preso l'altro nel 2004, quello del 2003 è rimasto nuovo, praticamente non l'ho più toccato. E poi il portatile mi pare o nel 2005 o nel 2006, quindi sono vecchi considerando l'innovazione informatica che c'è adesso. Positivo, via, ma comunque già va bene, non so cosa è successo, vediamo, clicco qua, no, immagini, no, tu. Strano però, tu, vediamo un po' su tu, no, manca la barra in alto, se vuoi aprite Explore, no? Esce la barra che lui c'è YouTube, adesso è cambiato, non è questo qua, boh, che cazzo è successo? Aspetta che controllo, vediamo un po'. Comunque tu, ci sono attualmente dei mezzi disponibili su computer appositamente però predisposti, ma configurate tutto. Ci sono attualmente Optix Pro, e poi c'è un altro chiamato, c'è un cavallo disegnato, un cavallo di Troia, porca miseria, bello anche quello, e quello è molto aggiornato anche. Solo che, vabbè, nel 2003 è passata la legge sulla privacy, quindi è ancora più grave la cosa. Prima non era ben definita, capito? Ma non ho cambiato. Praticamente rimane sulla sinistra, cioè sulla destra, no? C'è questo, una specie di, come la vuoi chiamare, di rado, ecco, sono dei quadratini, sono 9, due clicchi lì, c'è tutto YouTube, non ho cambiato, bastardi. È così, come comunque vai in questo sito che ti stai dicendo, scrivi www.mondonarco.it.com YouTube, non entra nudo YouTube, vai, cerca l'indirizzo, è questo www.mondonarco.com. YouTube è troppo censurato. Anto, tu l'hai mai visto il film Hostel 2? Negativo. Peccato, devi vederlo. Vabbè, allora non fa. Ah, a proposito, sai come si chiamava quel programma di intrusione remota che funzionava a pacchetti UDP, si chiamava Deep Throat, che vuol dire tradotto gola profonda. Ma tu, mondo Marco. Mundo, Mike Uniform. Mundo? Appa. Faccio un'altra cosa. Mundo. Vediamo. Allora, blog Narco. Berlusconi vive, no, quello. No, mentre nulla, mondonarco.com. Dopodiché vai su lista dei video, su c'è scritto lista video. Allora, lista video, mi piace già più. Blog Narco, giusto? Sì, ma ti sto dicendo, c'è nella barra su delle cose, c'è scritto lista video. Quando mi sapevo gli altri corsi, vaffanculo. Sì, ho visto, aspetta. Allora, lista video, ok, lista video, poi. Adesso ti apre una lista di video e tu devi vedere il secondo video, cioè, i titoli sono, diciamo, attivi, vai sul secondo. E cioè mi sembra che sia Cartel del Golfo e Kuzian 1Z. Qual è partendo da sul secondo, mi ha detto video forte le carte del golfo, qual è? Quello lì schiaccia su quello e ti apre un'altra pagina, dopodiché vai giù, la prima è una foto, la seconda è la possibilità di iniziare il video, vai. Mica ci sento male, Luca. No, ma se lo vediamo, ma se quanto è tenuta? Quello è un po' fatto. Quindi non entra nuda, vai, ti sto dicendo, se hai selezionato quello, scendi giù, vedi, prima la foto, ci sono questi in cosa da militare, scendi ancora più in giù, c'è la stessa foto però è attiva, e puoi avviare il video. Il video che è, allora, aspetta, golfo, foto del golfo, allora, questa è la foto. Che cazzo di video, qua c'è un video e c'è scritto mundonarco.com, jetsgolf.com. Devi scendere giù e cioè vedi la stessa immagine però è attiva e puoi avviare il video. Adesso vado a vedere. No, tanto alla su c'è una foto con queste parole non quello da tenute e qui soltanto c'è un praticamente un video, no, c'è una freccia, no, ci clicco sopra e mi fa vedere il video. Appa, ma non è il video di quello che ti ho detto io, tu devi selezionare quello che ti stavo dicendo, cioè il video forte e 4-1-Z io accostato dalle cartelle del golfo. Ah, è quello, allora te lo ripeto, sopra c'è una foto con queste donne nude, cioè se non nudo, e questi con il fucile, mi sa, un fucile c'hanno in mano, con il casco, sotto ancora c'è un video. Vai sul video, vai su quello che ti dà il video, vai sul video. Ma ti ammazzano. Guardalo. Cosa sta succedendo? Un po' di cazzo. Aspetta, sta parlando il ragazzino. E qui proprio crudeltà. Ma l'hai visto tutto? Una vita. Perché è tutto questo? Perché è il figlio di uno della banda rivale. Questa puttana, adesso ti decapitate, vero? Quello è cattivo video, vedi? Quanti problemi si mettono? Soprattutto gli abbiamo tagliato gambe. Ci sono la testa, no? Quale stai guardando? Non ho capito. È quello lì che sta tenendo. Sono quattro donne, giusto? No, oh, vabbè, no, io ti sto dicendo, guarda che ce n'è un altro e si chiama. Guarda che il secondo parte dall'alto, forse il terzo, adesso non mi ricordo, forse il primo. Sa pizza stavo facendo, guarda, mi andiamo via. Cos'è detto? Siamo andiamo via gli zingari. Vabbè, spariti. Ma la mia amica l'ho aspettata tanto. Ma hai visto quella del ragazzino? Mamma mia, cosa allucinante. Quelli secondo te la morte l'avevano sentita? Sì, purtroppo sì, perché le sue vedi le ammazzano proprio a farli soffrire. Marcolino il Condor, dove si... Marcolino il Condor. Marcolino il Condom. Raffaello. Ma... è diventato fucsia. Veramente disturbante, mi stavo sentendo male. Ma incredibile, guarda, non era quello del ragazzino, era un altro. Non ho parole. Qual era? Non lo so, ne hanno ammazzati due, uno dopo l'altro. Ma guarda, per carità, proprio disturbante. Ce n'è uno dove gli attaccano la testa con la sega elettrica, con la sega motore, come si chiama, motosega. No, guarda, ne ho visto uno e mi basta, non ne voglio più vedere di quella roba. Proprio è rivoltante. Ti fa capire a cosa può arrivare l'uomo, capito? Ma l'essere umano, questa concepire cose assurde davvero. No, per carità, ma Luca l'ha visto? Sì, io ho visto uno fatto a pezzi. Ehi, a questo prima la testa, poi le gambe ho visto che gli stavano tagliando. All'altezza della coscia, no, dell'inguine. Per carità, io me lo cancello subito anche dalla memoria. Non ti rimarrà per sempre. Beh no, per sempre no, però è la prima volta che vedo un cosiddetto chiamato snuff movie. Tu immaginati che ci eravamo scandalizzati per Nicolas Berger che gli avevano staccato la testa. Questi sono gente cattiva, un bel cattivo. E ci vai tu in Messico adesso? L'ho visto ridacchiando tra di loro. Come ci faccio una deminata? Via, la corattella. Dopo una mazzi. Credevo di aver visto tutto in internet, ma non è così. Vabbè, via, che schifo. Adesso non ho più voglia di cenare. Ma che te le frattaglie? La schifosa che sta calda. Perché non fanno un documentario di Piero Angela sui Narcos? Ma guarda che l'hanno già fatto. Se guardi, li trovi fra l'altro anche su YouTube questi filmati. Se tu cerchi il mondo narco su YouTube, però non ti fa vedere, non fa arrivare alla fine. Ovvio, quelli li castigano. A me mi ha castigato malamente una scena tratta da Hostel 2, che era un po' forte, bella però, porca miseria. Poi un film altrettanto disturbante, non come questo certo, è stato intitolato Serbian Film. Sì, non è schifo. Ma tu non te li sei guardati tutti, no, questi video? Mamma mia, e come fai? Cosa hai al posto dello stomaco? Un faro da tiro? Mamma mia, e quelli sono video educativi da far vedere ai bambini. Dai signori, io vi saluto, vado a cenare a forza magari. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti, a te, a parte mia, chiudo pure io, ciao. Thank you. fare T, anche Luca, io sto andando a cenare a forza. Va bene, con quel ritiro a tutti e due. Buonanotte, mi fate il sogno idolo? Via, sogni di decapitazioni. Grazie. Ciao Antonio, buonanotte. Ciao, ciao Luca, ciao Marco Condor.